Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Lucia, venerdì hai perso un'occasione grossa, de fatte da un bel cazzotto in bocca e de fatte casca quel dente giallo de merda che c'ha in mezzo alla bocca. Ciao Cruciani, e non ce la fai coi vegani. Io c'ho mio fratello che d'estate prende le zanzare in camera col sacchetto, apre la finestra, le libera fuori all'aperto, richiude la finestra e va a dormire. È una vitaccia. Allora, qualche volta, ragazzi, bisognerebbe veramente mandare a fare in culo pure il mitico Zuckerberg e Facebook. Pensa un po', Parenzo. Sì, sono tutto. No, l'hanno bloccato, tutto. Il mio amico Luca Bizzarri, il quale certo non mi fa sconti quando dico secondo lui delle stronzate, ma che mi appoggia in pieno, ovviamente, nella vicenda, come tutte le persone dotate di un minimo di zucca, di sale in zucca, sulla vicenda degli estremisti vegani, dei nazi vegani, ha postato l'altro giorno una foto su Facebook con lui con un salame, una finocchiona in mano, adesso non so cosa era esattamente. Sì, era un salame. Adesso, le assurde regole che governano il mondo di Facebook hanno portato al cancellamento di quella foto. Voi vi rendete conto? Non si capisce su quale base, ma questa volta. Ma c'è io condivido quando loro bloccano le oscenità, ma quando bloccano le parolacce. Va bene tutto, ma francamente. Non si capisce perché. Oh, ti leggo un menù base, Mare Nostrum menù sì, di un centro di accoglienza per immigrati. Beh, sì. Pranzo, riso in bianco, spezzatino di tacchino, questo è il lunedì, riso in bianco, spezzatino di tacchino al curry, insalata, frutta fresca o yogurt. Poco, cena, anche riso in bianco cena è lunedì, triste. Cena, anche poco dici. Beh, no, cena è triste, lunedì, sembra evidente. Minestrone. Verdure fanno bene a chiunque, bene. Pollo. Beh, pollo, carne, carote, che costa pochissimo. Carote all'olio. La roba da ospedale. Frutta fresca o yogurt. Oh, roba da ospedale. Se vai a mangiare in qualunque ospedale ti danno questa roba qua. Manca solo il purè, poveretti, ma mi sembra veramente assurdo. Il martedì, proprio. Risotto ai funghi. No, meno male. Cosciotti di pollo. Oh, finalmente il martedì già si comincia patate a vivere. Patate al forno. Oh, bene. Frutta fresca o yogurt. Sempre frutta, martedì. Ma un dolce si può dare, una sacher, un gelato, una roba. Sempre la frutta, che cazzo è? A tu cena, mangi frutta tutti i giorni. Pasta al pomodoro. Ma no, non capisco perché devi fare aspetta, questa lista. Non ho la capito. Cena, sembra che cucini il mio amico Bissani. No, mangiano come tutti. Tu quante cazzi di volte al giorno mangi? Fammi allora, andare la subito. Cena, ripeto, la cena, centro di accoglienza. La pasta, per il... Adesso chiama qualche stronzo che sicuramente dirà non farmi incazzare. So che non si devono dire parolacce in questa fase della radio della Confindustria, però non farmi incazzare. Aspetta, con queste robe. La cena, la cena vediamo, del martedì. La cena del martedì, cosa c'è? C'è un motivo per cui ti faccio questo elenco. Vediamo, la cena, vediamo, pasta sì, al pomodoro, tonno e olive. Oh, frittata. Hanno messo il tonno! Oh, scandalo! Chiamerà quello stronzo di Donato. Da... Hanno messo il tonno! Aspetta, frittata. Ma vaffanculo, tu e il menù. Ma che roba è? Piselli con la cipolla. Ma frutta, veramente... verdura o yogurt di fisso. Cioè, ancora puoi anche scegliere tra la frutta fresca. Ancora. Scusa, frutta, verdura no. Frutta fresca. Ancora con la frutta. Dolci. Ci il mercoledì. Dolci, dei gelati, delle cassate, delle sacher. Riso delle in torte, bianco. Scaloppine. Ancora sto di cazzo pollo, di riso in bianco. Ma fa schifo. Scaloppine di pollo. Ma riso in bianco te lo mangi tu? Aspetta. E questi cornuti. Fagioli borlotti al pomodoro. Ma una roba che neanche l'ascoltatore di Radio Padania mangia il riso in bianco. Posso dire che meriterebbe. La cena di mercoledì invece lo Stato offre, i contribuenti offrono. Mamma mia. Pasta in salsa di verdure. Beh, non è male qua. Scaloppina di tacchino. Piselli alla mediterranea. Frutta fresca o yogurt, cioè, su frutta fresca o yogurt ci vorrebbe frutta, ragazzi, ci vorrebbe un una variazione. Dolce la domenica, gli daranno il dolce almeno, non lo so, un gelato perché, non lo so se è previsto la domenica. Beh, spero. No, ma la cosa incredibile adesso, al di là dell'elencazione delle cose, è la cosa un menù normalissimo, anche povero, i peraltro. Signori richiedenti asilo, e dico richiedenti asilo, cioè immigrati sostanzialmente mangiano. Clandestini, scandalo, mangiano del centro di Rovereto, del centro di Rovereto. No, a un certo punto è finito il pollo. Il pollo è finito, pare che piaccia particolarmente il pollo. In tavola è arrivata, sono arrivate delle uova, del formaggio, e le portate sono state contestate. Ha ragione, giustissimo. Alcuni pakistani hanno avuto il coraggio di protestare pesantemente contro i responsabili del centro di accoglienza, tanto da richiedere l'intervento di una pattuglia della polizia per far tornare la quiete. Cioè, hanno fatto bene a protestare perché il pollo è finito, hai detto. Assolutamente. Hanno fatto bene a protestare. Assolutamente, bene. Ma in generale non si può far passare il messaggio che questo qui sia un menù dal ristorante del mio amico Vissani. Questa è l'opinione di Parenzo. Ma no, ma è una questa cosa normale. Questa è l'opinione normale. Di Parenzo. Certo, hanno fatto ora, bene a protestare. Ascoltere, ma hanno certo, ora chiamerà qualche miserabile. Lascia perdere. Ma noi altri non mangiamo il risotto bianco. Noi altri non mangiamo, sa. Va tu, to che te strupri tu sorella. Tua sorella te ga stuprà e non ga mangiare il risotto. Imbecilli, miserabili, guarda, io chiudo la trasmissione qua. Ciao, vado via. Non lo so se mi fermo stasera, Non lo so. A proposito di intemerate televisive. Salvini ha detto che farà una manifestazione sotto che fai? Hai sputato? Che hai fatto? No, detto, a casa sotto del casa della Fornero, Fornero. Sì, sotto ma casa conto della ormai Fornero. Mamma mia, sotto ragazzi. Casa della Fornero, il signor Cazzola, che è un esperto di pensioni, perché sempre di pensioni stiamo parlando, gli ha risposto in questo modo. Marco Biagi. Marco Biagi divenne un simbolo, divenne l'uomo che aveva colpa della precarietà. 14 anni fa l'hanno ammazzato sotto casa le Brigate Rosse, ma chi ha armato le Brigate Rosse era quelli che come lei personalizzano la battaglia politica e creano dei simboli. Il brigatista mi deve guardare. Ma vogliamo ricordare vero, riflessione non sbagliata. Cioè, secondo te istiga la violenza nei confronti della Fornero? No, Salvini? Lui ha detto una. No, secondo te Salvini istiga la violenza nei confronti della potenzialmente Fornero? Potenzialmente sì, perché fa diventare no, la persona. Sì o no? Istiga o non sì, istiga? Perché fa diventare la persona un bersaglio, cioè il simbolo di un nemico del popolo. Su questo non c'è dubbio, hai ragione Cazzola. Signor Bauro dice di provare pietà umana per i kamikaze. Vabbè, questo è l'altro giorno, ma chi lo rimettiamo. Signor Bauro, prova pietà umana per vabbè, i kamikaze. Io provo pietà. Io vorrei per capire Bauro. Chi cazzo ma, è che mi chiama a quest'ora, perché è veramente curioso. Questa qua è una grande casa. Beh, non è che tutti devono sapere che sei, ma sentiamo, che sei in onda. Se, però. Ma sì, ma tutto il mondo sa che sono in onda a quest'ora, no? Sapere, tutto il mondo sa che sono. Ma sì, anche i miei nemici, anche i miei peggiori nemici sanno che a quest'ora sono in onda. Comunque vai. Io provo pietà umana anche per questi kamikaze, lo so che non sarà popolare dirlo, ma un ragazzo di 20 anni o poco più che si fa esplodere è già una tragedia in sé, è un dramma. Ora mi dicono che la foto di Bizzarri è stata rimessa, molto bene se è stata rimessa, va bene, però non si capisce veramente perché questi stronzi di Facebook cancellino le cose a cazzo di cane senza un motivo, per questa politica assurda degli estremismi, se è un estremismo mettere un salame, dai. A proposito, mi hanno regalato un salame molto lungo, più di un metro. Parenzo, più di un metro di salame. Dio, ti assicuro, più di un metro. È arrivata una roba così, mi sembrava un fucile, una cosa. Mi hanno detto, no, tieni lontana questa cosa, chissà cosa c'è. Magari c'è l'antrace. Te lo ricordi l'antrace? Come no? Magari c'è l'antrace. Antrace, una roba incredibile, dopo la faccio vedere sulla webcam. Alle 7:15, dopo lo faccio vedere. Cioè, sto salame enorme, di oltre un metro e mezzo. Occhio che non ti faccia male al pancino, però. Ma io lo mangio pochissimo il salame, anzi, si può dire che praticamente non lo mangio. Beh, regalalo a Riccardo Polio, a Mercù. Queste signori del Fronte regalalo Animalista. A Mercù, che questi, ha aperto la porta. Questi signori del Fronte Animalista dicono che io non devo toccare gli animali, signori del Fronte Animalista. Lui ha portato la pecora viva dentro nella redazione, dicendo che l'amava, che però l'avrebbe amata di più a settembre nel piatto. Finché se la prende con noi va bene, ma non deve toccare gli animali. Non deve questi sono veramente disturbati, eh? C'è un disturbo proprio mentale, un disturbo grave, eh? Non, ma grave, grave. Noi volevamo semplicemente un confronto. E a quelli che ci dicono, secondo me avete fatto la figura dei violenti, io credo che un vaffa sia molto meno violento della promessa di un omicidio. La promessa di un omicidio. Amico mio, non l'ammazzavo io, la capretta, l'agnellino, non lo ammazzavo io. L'ammazzano le persone che fanno questo di mestiere. Cioè, chiunque si mette ad ammazzare degli animali e magari fotografa l'ammazzamento può essere denunciato, ma questi qua non sanno un cazzo, cioè non gliene frega niente. Persone con cui discutere è praticamente impossibile. È impossibile. Una deficiente che mi ha rincorso dice, una tale che si chiama Giudice, dice: anche volendo non avrei potuto picchiarlo, peso 47 kg. Ma è una roba incredibile. Senti, senti. Volevate picchiare Cruciani? No, beh, dai. Tu eri quella più scatenata, sì, però. Sì, però peso 47 kg bagnati, non ce l'avrei mai fatta, anche volendo. Però mi sembravi, insomma, abbastanza convinta. Adesso non so se poi lo rivediamo, eccolo. Questo è il momento in cui Cruciani provocatoriamente... Sì, i toni si sono alzati un po'. Vabbè, adesso la cosa più bella è che la moviola su quella roba lì. Sì. Adesso lo rivediamo il dettaglio, la cosa arriva lui, sì, col la moviola. Chi è questo? Che programma era? Volevamo Mattino 5, volevamo solo un confronto. Lui è scappato come un coniglio. Adesso, ovviamente, ma questo l'abbiamo già detto ieri, se no annoiamo tutti. C'è questo: se non fai a cazzotti, se non fai a pugni, non sei abbastanza forte, capito? Maschio, non sei, beh, non puoi, certo, fare il non sei maschio, non, beh, puoi fare il conduttore radiofonico. Se non fai a pugni, capito? I grandi pacifisti del giornalismo e della comunicazione italiana. Senti comunque questa qua, questa Giudice, questa del fronte animalista, malati di mente. Lui si è messo a correre ed è scappato via dopo questo. Perché quindi ha paura, dici? Non ha avuto il coraggio di... Non lo so, noi volevamo semplicemente un confronto. Lui è scappato. Come ha detto bene Scanzi in, sì, un articolo che ha fatto, lui voleva cucinarci come dei maiali, invece è scappato come un coniglio. Per la Martani sono molto pericoloso. Penso che Cruciani sia molto pericoloso, perché purtroppo lui è un esponente di un settore che è quello dei media, quindi ha la possibilità di poter parlare in radio tutti i giorni e utilizza questo mezzo per aizzare, per provocare. Ah, mamma mia, che pazienza che ci vuole, guarda, che pazienza. Ci vuole veramente una grande pazienza, una grandissima pazienza, guarda, per non mandare a fare in culo tutti ogni giorno, ogni, beh, secondo di ogni giorno. Non è che no, ma ogni secondo, adesso, diciamo, ma ogni secondo. Mi pare che ciò avvenga quotidie, come dicono. No, gli unici due a far culo, però per adesso l'hai detti tu, ti voglio segnalare. Certo. No, per dire, ci anche anticipando l'intervento di qualcuno. Ma no, già, sì, perché vedrai che succede, guarda, basta qualche secondo, chiamerà uno stronzo da Teramo, un altro da Bari, un altro da Milano, uno da Bergamo Alta, un altro da Cologno Monzese, un altro da Gessate, uno da Cascina Gobba, un altro da non so dove, che dirà: che scandalo, il riso bianco, i Ghedà anche il riso bianco, vergogna, a casa tua portai a casa tua. Ciao Cruciani, sono in diretta da Dubai, ma a me del sole, del divertimento non me ne frega un cazzo, ascolto solo la Zanzara, traffico. Pantera col TH, l'IRP di Infracom Italia, anche in cloud. Vi presenta La Zanzara. Ma chi cazzo è Scanzi? Allora, adesso vi faccio ascoltare una cosa detta dal professor Cacciari, Massimo Cacciari, ieri sera durante la trasmissione di Floris sul canone della RAI. Sul canone della RAI, senti un po', poi ti dico una cosa su Floris, senti. E sono pazzi. Cioè, è una cosa di una illegittimità che per me è scandaloso come qualcuno non intervenga a dirlo. Cioè, sono pazzi a mettere il canone in bolletta, dice Cacciari, eh. Lei che ne pensa di questa storia del canone? Mi pare una cosa che non sta né in cielo né in terra. Perché? Questa costruzione a pagare il canone televisivo è una cosa inaudita. Ma il canone va abolito, è evidente, ma perché la RAI deve prendere un canone? Qual è il servizio che mi dà la RAI che non mi danno altre reti? Allora, Cacciari dice che il canone va abolito, io sono d'accordo. Dopodiché la domanda però è un'altra, perché va bene tutto, no, Parenzo? Però in tanti anni Floris ci ha abituato, magari adesso andiamo a ripescarlo, a qualche difesa magari del canone. Ora, va bene tutto, ripeto, va bene tutto, anche cambiare idea, eccetera, eccetera. No, ma qua è diverso, ma però, secondo te avrebbe, no, perché lascia passare, avrebbe invitato Cacciari a parlare, a dire che il canone va abolito alla RAI? Non credo. Sapeva che cosa avrebbe detto Cacciari, sicuramente. Su questo, che Cacciari dice quello che gli pare. Vabbè, non capito, è che avrebbe uno detto, lo avrebbe... No, ma qui il tema è diverso, non è il canone, qui è il canone in bolletta, sì, e non rinunciare alla pubblicità. Questo è il tema vero. Vabbè, adesso che tu pone sei in conflitto Cacciari. Sei in conflitto di interessi. No, Lores... ma è talmente, io che sono per il libero mercato, Lores dalla provincia di Vicenza, ma non per il canone in bolletta, allora deve rinunciare alla pubblicità. Lores, provincia di Vicenza, hai gli stessi argomenti di Cairo, non te lo puoi permettere. No, Lores, provincia di Vicenza. Non è vero, è un argomento di mercato. Sì, vabbè, se tu hai il canone, devi rinunciare alla pubblicità. Lores, provincia di Vicenza. Questo è evidente. Dimmi, Lores. Se no è concorrenza sleale. Ciao, ah, ecco, questa ciao, è la demente, ciao. Vedrai. Volevo sul menù. Dire, volevo vedrai dire, che questa è la demente zitto, sul menù. Fai parlare. No, no, fai... no. Vedrai che nessuno parlerà sul menù. Te lo giuro oggi. Nessuno. Sarò il black no, block dai, su, della non radio. Per il cazzo, dai. Nessuno parla del menù. Lores. Specie miserabili come questi qua. Ma non lo sai che cosa sta dicendo, già, Lores. Ma la conosco, è una imbecille no, questa. No, ma è una vita Lores, che non interviene. Lores, dimmi. Vedrai. Allora, senti, senti l'argomento. Niente, a parte il fatto. Esatto, premetto, niente. Proprio niente. Davide, non mi fare incazzare, fai parlare, dai, Lores, esatto, dimmi. Sentila. Premetto che non sono leghista, però vive Salvini. Cioè, io considero la Lega la terza piaga del Veneto, perciò mai ma più. Ma tu sei indipendentista Lega, addirittura. Sei indipendentista. Sì, esatto, sì. E infatti comito, la Lega dopo Napoleone, l'Italia è la terza piaga del Veneto. Addirittura. Perciò, sì. Vabbè, poi. Vauro, un piccolo cervello è nato con la sindrome comunista, che è un insieme di patologie. Minoranza mentale, ignoranza, deficienza, cioè è malato di mente, è malato di mente secondo te? È malato di mente, un comunista, perciò è nato comunista. Comunista si nasce, mica si diventa, certo, perché uno non è mica così deficiente che da sano diventa comunista, certo. È una cioè patologia. Uno nasce comunista, come nasce uno che... comunista, è una malattia, è una sindrome, sì, un è insieme una sindrome di patologie. Uno nasce l'ora, ecco, infatti, sì, è un dramma. Sì. E poi uguale, poi volevo dire del menù degli invasori. Sì. Di quei coglionazzi che arrivano, senti, qui per devastare l'Italia, per devastare noi italiani e per far morire di fame i nostri anziani, per togliere il futuro ai nostri giovani, sì, e stuprare le nostre tutte... donne, violentare i nostri maschi. E io vorrei con tutto il cuore che a parte una bella, cioè, io godo quando le navi affondano. Beh, io godo ecco quando però le navi imbecille affondano. Tu godi quando le navi affondano. Godo imbecille. Quando le navi affondano io godo, siccome sono sempre troppo pochi. Siccome tu, Lores, probabilmente non godi più, diciamo in maniera normale, penso, ma non so, quanti anni hai, scusami, poi ride pure. Lores, quanti anni hai? Sì, ho 66 anni. Sì. A 66 anni hai ancora orgasmi? Sì. Ma no, ma instabile di beh, mente. Beh, saranno ben fatti miei questi qua, no? Sì, comunque d'accordo, sono viva e vegeta, sono sì, viva. Però evidentemente tu hai sempre i migliori, hai trasferito, diciamo... Non fare lo psicologo. Ma la fuga dei cervelli non va mai. Io ti dico come curarti. Io ti ho mai detto come curarti. No, io ti sto dicendo una cosa. Probabilmente tu godi adesso, non godi più col sesso e godi vedendo le barche no, di mie... No, guarda, se vogliamo fare una gara vedrai che godo più io di te. Comunque, pensa che spettacolo stammi a sentire. Sì, è un'altra goduria, ma scusa, tu muori, cioè godi se vedi morire i bambini immigrati che arrivano. Ma senti un po', ma questo hai detto, se affondano i barconi godi. Sì, ma stammi a sentire. Cioè, se un bambino muore affondando, aspetta, tu godi. Ma ti godi. Pare normale? Ma ti pare normale che in una barca con 20 adulti muoiano 7 bambini? Ma quelli non cosa li hanno mica buttati giù. Ma li hanno affogati. Ma chi è sto genio? Ma chi li ha? Ma come li hanno? Vabbè, ma non li è mica detto come quelli che sono sulla barca. Mandala a quel paese questa. Ma scusami, però è Solores, va benissimo l'indipendentismo veneto, va benissimo, no, va tutte benissimo. Le stranezze del mondo. No, ma dico tutte le stranezze del per mondo. Per carità, ragazzi, vabbè, ormai siamo abituati a qualunque però, cosa. Però Lores, dire che i bambini non muoiono perché la barca affonda, ma perché no, sono No, ti pare normale? No. No, perché no, se no, io no. ti dico, ti posso dire che finché c'è un bambino, Lores da Vicenza, io lui ti dico. Non affogherà io, ma il bambino no. 20 adulti in una barca e muoiono 7 bambini, quei 7 bambini sono stati affogati. Comunque tu, tu godi, tutti, comunque bene, tu godi, tu godi. La sentenza molto, di... Molto, molto. Godi quando... Si godi vergogna, quando il godimento, ma non è un reato il godimento, è una bestia. Ma io che ne so, io guarda, non ho nessuna paura neanche che se mi vengono a prendere, cioè, io ma sono non vengono libera, neanche sono questo veneta, dramma non purtroppo sono mica italiana, sai, ho depositato, cioè, io sono solo veneta, non ho paura della cioè non riconosci la polizia, no, italiana, non riconosci, non me ne frega un cazzo, cioè, no, non le riconosco, no, ho depositato i municipi, io sono veneta. Cosa hai depositato? Che hai depositato? Cosa ha depositato il municipio? Sì, la mia un atto di infermità mentale ha depositato il municipio. Ma la nazionalità, signora ma mia, lei è, zitto, lei è una signora totalmente zitto, disturbata. Mi dia retta, perché zitto. Io non, diciamo, non intervengo neanche su questa cosa agghiacciante delle barche che lei gode. Non intervengo neanche su questo perché non merita nulla. Allora, intervengo sul fatto, intervengo sul fatto che lei ha depositato in comune un atto in cui lei non è italiana. Ecco, su questo intervengo perché lei, signora mia, sono italiana, è sono veneta, disturbata mentalmente, ma non solo per la roba dei migranti, perché se uno eccola, meno male che ha chiuso, poveretta. Signora Lores, la signora ogni tanto rispunta fuori, la signora Lores. Ma sono come i funghi, cazzo, quelli madi in montagna escono. Ah, la volevo gramigna. Ritornare a leggere il menù, volevo ritornare a leggere il menù. Siamo alla giornata di giovedì. Couscous, ah, c'è il couscous a pranzo, Ma è giusto. Minestrone, ottimo il couscous. Patate e spinaci, anzi patate a spicchi. Comunque è una cucina tutta povera, frutta non fresca, è... ah, cucina povera, frutta fresca sì. O yogurt anche qui, però ma, qui, scusami, qui ma manca chi è qualcosa. Che mangia la frutta fresca? Ma cosa vuol dire? Cioè, bisogna questo mettere menù? Il dolce, dici. Cosa di... ma risotto con pomodoro e piselli, sempre alla cena sì, questo io qua. Farei quarto con lo di zafferano, pollo, quarto di pollo al ma forno. Ma sempre il pollo. Ma il pollo bisogna dare il pollo due volte a settimana, ci vuole il manzo, il filetto, poi ad esempio. Assolutamente sì. Il filetto agli il immigrati. Pesce, ci vuole il insalata il agli immigrati. E pomodori. Ai profughi, certo. Frutta fresca o yogurt. Ancora sta frutta. Neanche in carcere. Ti assicuro che Appoggio Reale mangiano tante verdure quante quelle che vengono date a questi. Cioè, e adesso peggio certo, del carcere, chiamerà peggio. Ma sicuramente il riso bianco gli dai, il riso bianco. Beh, no, ma il riso bianco, pasta al pomodoro, pasta al pomodoro, risotto con pomodoro dai, e piselli. Fai una pasta Mari e Monti, ad esempio, che sarebbe panna, funghi e salmone. Ma io dico sul serio, su. Ragazzi miei, non si lei, queste sono stronzate, cioè far pensare no, che no, ma si sono ribellati, ma costa hanno fatto sicuro. Bene, perché non si mangia il pollo 6 giorni su 7, te lo dice qualunque dietologo intelligente. No, non hai capito ancora, non sono ribellati perché c'era troppo pollo, Il pollo è finito, hanno portato le uova e il formaggio e si sono incazzati. Ma infatti hanno sbagliato. L'intervento della polizia! L'uovo e il formaggio è un cibo fermoli, miserabile, fermoli, un cibo fermo, che... Zanzare, Uakbar, Zanzare, Uakbar! Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in Digital Radio. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presenta La Zanzara. Luciani, ho solo una cosa in mente. Tu al mio addio al nubilato. Oh ragazzi, questa che voleva? L'addio al nubilato? Un addio al nubilato? Sì, ormai ti invitano. Beh. No, come si invita il vecchio zio maiale. Ma che c'entra il vecchio zio maiale, dai? No, sai quando c'è. Ma questa aveva la voce anche molto molto bella, molto ti usano, molto bella. Ti usano come. Come l'annunciatrice dei numeri di telefono per chiamare la zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, caro Parenzo, se accendi la webcam puoi vedermi completamente avvolto da un salame, perché mi è arrivato oggi un salame da una ditta che voglio citare, magari a loro non farà piacere perché potrebbe essere presa d'assalto dai nazi vegani, una ditta di Alba, Armini, c'è il tartufo anche, Armini, beh sì certo, hai scoperto l'acqua calda. No, lo ricordo. Alba, salame, Armini, diciamo. Franco, mi hanno mandato un salame lungo quasi un metro, mi sembrava un fucile. Marchettina. No, che c'entra marchettina, non c'entra un cazzo, ho citato chi mi ha mandato il salame e dunque ho messo il salame come una specie di sciarpa, meraviglioso. Ma non penso che loro lo vogliono che tu lo usi così. No, che c'entra, poi lo distribuirò qui, lo mangeremo qui, cioè non lo porterò a casa. Mercù. Andro Mercù che ha aperto la porta ai rivoltosi. Ma cosa cazzo c'entra l'altro Mercù, scusa? Per premio Mercù che ha aperto la porta. Allora, volevo proseguire con il menù degli immigrati. Eravamo rimasti, mi sembra. No, ma posso dirti, aspetta. È veramente allora, ma lunedì, no, martedì, aspetta, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. È stupido. Allora, stucchevole. Il venerdì pasta al pomodoro a pranzo, bastoncini di pesce impanati. Beh, sì, bastoncini di pesce impanati sì, è buono. Sì, quella roba da miserabili da 0,90 che si compra al supermercato. Ma che cazzo dici 0,90? Bastoncini di merluzzo, ma costeranno 2 carote euro. Carote e fagiolini di contorno e la solita frutta, verdura, yogurt come chiamo dessert, ragazzi, come non conclusione. C'è nessuno non lo chiamano dessert, la sera, la pasta al pomodoro, tonno, cipolle, olive nere. Il tonno, la scatoletta di tonno. Ragazzi, bisogna insalata, d'accordo. Insalata. Ma che vuol dire? Frutta fresca o yogurt. Vabbè. Sabato, riso in bianco. Ma tu ti rendi conto che non è un menù, non è un spezzatino ristorante? Spezzatino di tacchino. Carote, frutta fresca o yogurt. Questo a pranzo. A cena invece sempre del giorno, credo di sabato, c'è il couscous. Il couscous viene dato. Poi uova sode. Che è un cibo poverissimo. Tris, couscous, addirittura la tris. Tris di verdurine. Ma che vuol frutta dire? Fresco yogurt, ma che vuol roba dire? È il menù. Te l'assicuro. Ma che roba da ospedale, non dire cazzate. O da carcere. Dai. Domenica, aspetta, diamo la domenica. Passare questo come un gran buffet che si dà ai richiedenti asilo. No, è clandestini. No, clandestini a Rovereto. Sono. Comunque sono persone che mangiano del riso in bianco e della pasta al pomodoro. Non rompiamo i coglioni su queste risotto cose. Risotto islamico. No, scusa, risotto in bianco, no islamico. Risotto in bianco, scaloppine di pollo al curry. Scaloppine di pollo al curry. Non è male. Mi possono dare anche il manzo. Insalata con pomodori, frutta fresca o yogurt. Questa è la domenica a pranzo. La domenica dolce, se no, bisognerebbe dare il dolce, secondo te. Ma ancora, dolce il gelato. Dolce già, invece no, non c'è. Normale. Non c'è. La sera della domenica pasta al pomodoro. Perché pizza margherita, qualche no, c'è anche la pizza margherita. Giù, sei in Italia. Pizza quanto margherita costa? 2,90 euro fare una pizza. Stai dicendo patate delle al forno? No, io sto leggendolo. Elencando. È chiaro che dai la stura a questi quattro imbecilli. Aspetta, patatine al forno, patatine al forno e poi sempre frutta fresca o yogurt. Danno la pizza agli italiani. Gli italiani danno tensioni ai a Chioggia. Niente patatine fritte, profughi infuriati in un poi hotel a Pasqua. Siccome sei a Chioggia, dagli un'orata. Dagli un branzino, dagli un trancio di tonno, non il tonno in scatola, miserabili. Dategli da mangiare delle robe normali, lo scatoletto, il merluzzo, quelli dei bastoncini Findus, 1,20 euro. E adesso vedrai che chiamerà Pino dal Cuneo, Mirko da Brescia, quattro imbecilli, scate da Imperia, che diranno scandalo, danno i bastoncini Findus ai migranti. Andate a fare in culo, andate a fare in culo, e chiamate tre. Radio Padania. E tre, Parenzo. Mirko da Torino. Parenzo. Mirko da Torino, vai Mirko. Le escort non sono comprese nel menù, il massaggio non c'è. Ecco, però aspetta, parla, ecco, parla più forte, se no ti sentiamo, Mirko, dai. Ma è... non è compreso il massaggio. Pronto, dimmi Mirko, mamma dimmi, che cos'è che dicevi? Io proporrei anche due escort per questi immigrati, due ma quello, ma quello ci può pensare lei che si diverte pure, così a rotonda. Ci pensi lei, così si arrotonda. Che dici? Che dici? Pane, salame, musulmani, non devono rompere i coglioni. Stupidaggi. Che vuol dire pane e salame, scusa? Ma questi sono le leggi, non devono mangiare il salame. Sei disperato, mangi il salame e non rompi i coglioni. Non è che ti devi dare il menù per gli immigrati. Ma questi stanno in un albergo che noi paghiamo, operazione Mare che Nostro. Noi paghiamo, che noi paghiamo, sì, io certo. Ti devo pagare per un musulmano della minchia, ma stiamo scherzando. Ma non è solo per i musulmani, tutti quelli che arrivano in Italia, non è che sono solo musulmani quelli che arrivano. Ma comunque. Comunque, a te ti sta sul cazzo questa roba qui, ti sta sui coglioni. Ma stiamo scherzando, c'è il menù per gli immigrati. Menù per gli non immigrati. È un menù per gli immigrati. Beh sì, è menù è per un gli menù, immigrati. È menù è per un gli menù immigrati. Che si mangia negli ospedali e nelle carceri, non c'è un nulla giornale, di giornale, il giornale. Siccome mangiare devono mangiare, credo. Lei anche, purtroppo, mangia tre volte al giorno. Ecco, per lei è uno io spreco, ad esempio. Me lo pago. Io il mangiare me lo pago. Ma se lo paga di... Si chiama solidarietà, si chiama questa. Anch'io devo pagare quando lei viene ricoverato all'ospedale per molestie o per ubriachezza, devo pagare la sua ubriachezza, le sue molestie. Ma che ne anch'io sai che è un ubriacone? Scusa, sicuro, che, sicuramente. Che ne sai? Mirko? Sicuro. Bevi, Mirko bevi alcol? Assolutamente sicuro. Sì, bevo alcol e bevi. Nessuno mi deve rompere i coglioni. E devo pagare, vedi, devo pagare il sistema sanitario per curare Mirko da Brescia? Ma no, come Mirko si chiama? Da Torino. No, da Torino. Mirko da Torino? Ma io devo pagare per curare l'ospedale a questo qui? No, ma se lo paghi lui, ma perché devo curare Mirko da Torino? Però paghi per il profumo. Certo, preferisco pagare per il provo piuttosto che per Mirko da Torino, non c'è un po' di dubbio. Vabbè Mirko, ciao. Lisa, provincia di Imperia, vai, Lisa. Ma ascoltami, Elisa, Cruciani, ciao. Parenzo, dimmi. Perché non glielo paghi te il branzino a sti qua? Eccola qua, vedi. Vedi scusami che è arrivata? Un secondo, porco Giuda. L'avevo detto. L'ho capito, gli imbecilli da Imperia, no? E branzino. Deficiente. Mamma capito? Mia, sei tu che ragazzi. L'hai detto, dategli il branzino, certo, perché pesce, figa, 90 pesce centesimi bastoncini. Pesce normale, bastoncini finduci, dai, ma che discorso branzino, è? Branzino, orata, trancio di salmone, pesce normale, roba che mangia. Certo, ma ospitali a casa tua, ospitali. Hai visto che è arrivata? Vai, hai visto vai, che è arrivata? Adesso il branzino, addirittura, Davide, il branzino cioè, si può anche so, quanto dai, costa il branzino? Ma non esiste una roba del sei a Chioggia? Lo pescano? Il scandalo! Il branzino! Il branzino! Guardala dai, qua! Ma lo pescano dai balconi! Lei sarebbe anche una cattolica magari! Lei magari sarebbe pure cattolica! Lei sarebbe magari pure cattolica, vero? Lisa dalla provincia di Imperia! Lisa e sono cristiana, non cattolica perché mi fanno schifo i preti pedofili, ma quindi quelli, non sono per l'istituzione quelle robe lì, ma mi fa schifo l'idea che uno come Parenzo, con lo stipendio che si prende, va a dire che non devono mangiare gli sti cazzo di bastoncini, chiedo anche a mio figlio, che mi sembra che assurdo, ho detto che mi sembra fuori, assurdo far passare branzino. Quel menù come fosse un menù da Grand Hotel, è un menù normale, è un menù di chi mangia all'ospedale o in carcere. È un menù, signorina. Riso in bianco. Mangia, ma no, perché si fa passare per scandalo. E va a raffettare nei rifiuti ed è gente italiana. Ma ci sei o lo ma fai? Cosa c'entra? Ma che però devo c'entra? Dire la verità: è un menù di tutto rispetto. Adesso non sarà come dice. Non sarà come dice. Non sarà come dice il giornale. Il giornale dice menù a 5 stelle. Dice menù a 5 stelle. Sapevo che era la fonte del giornale. Ma per gli immigrati a 5 stelle, perché se no si mangerebbero sempre riso e couscous tutti i giorni. Ma guarda, mi sembra normale, mangiano, gli facciamo pure il couscous, pisapia, si mette a cucinare. Appunto, il couscous cosa lo fanno perché con, deve con fare la carne ma no? Diamogli da mangiare la merda, che è roba che mangiano normalmente, merda di cammello. No, scusa, Sallusti, scusi, Sallusti, come la merda? Appunto, buonasera, ma abbiamo scritto la verità, nei loro paesi no, mangiano la merda e mangiasse la merda di cammello, normale, no? Lisa, un attimo solo, aspetta, passa Sallusti, non ho capito, ma... Buonasera intanto, buonasera. Sì, buonasera, buonasera, scusi, avete titolato... Parigi a Milano naturalmente. Però avete titolato sul giornale piatti sgradite di immigrati scoppia la rivolta a Rovereto menù a 5 stelle non no? C'è dubbio, domani titoleremo mangiassero la loro merda di cammello perché è quello che mangiano ma in che quei c'entra? Paesi ovviamente sì. Oppure possono mangiare un pezzo di minaretto ad esempio, si capisce. capisce perché devono mangiare il riso in bianco. Cioè, mi sembra una cosa talmente normale. Cioè, sono dei pezzi di merda. Che vuol dire? Mangiassero la merda. Mi risulta che in Africa si mangia la merda. Ma no, non è vero. Vengono a casa nostra, mangiano i nostri risi. Scusi, perché uno scandalo? Le nostre donne. Perché? Ma no, vabbè, non è che tutti violentano le donne. Guardi cosa ha fatto Sala a Milano, ad esempio, no? Tanto per dire. Ma che cosa ha fatto Sala? È un immigrato, Sala. Ma che è un immigrato? Che cazzo Sala lo chiamano su Al Jazeera, visto che dicono il nostro fratello. Ma no, ma guardate come ha ridotto le mense a Milano Pisapì. Adesso facciamo una grande richiesta. Ma come ha ridotto le mense? Danno da mangiare ai bambini, no? Ma no, dai. Il couscous ai bambini è una cosa vergognosa. Cioè, facciamo una battaglia di civiltà del giornale. Quindi. Vabbè, Elisa, non ho capito. Elisa, allora. Scusi. Ok, scusi. Allora io chiamo da Lazio. Normalmente qua non se ne vedono di immigrati, ok? Ma che c'entra non adesso? Se ne vedono, va bene? Perché sono tutti da altre parti, Roma, Milano, io vengo, provengo da Milano, dove praticamente ma adesso sono che c'entra però, scusami. Tutto di qua e di là. No, sto solo dicendo che Parenzo fa lo sborone a dire gli diano il branzino, cucinaglielo testa a sera, Parenzo. Ho detto che non è uno scandalo il fatto, come scrive il giornale, che danno da mangiare a delle persone. Non è un menù a 5 stelle, capito? Ma basta. Stai scherzando, per loro è un menù a 5 stelle. Ma tu mi hai chiamato Elisa, mi hai chiamato per questo o per un'altra cosa? Io ti ho chiamato per un altro motivo, perché per la storia del linciaggio mediatico e quasi fisico che ti hanno fatto quel cazzo di cani dire? Lì. No, semplicemente che ho visto una notizia di dove i genitori hanno denutrito il figlio semplicemente perché è vegano. Ma dove è successo? Quindi hanno scusa. Deciso, sinceramente la zona non lo so, non so se Milano o da altre parti. E allora? E quindi sono stati denunciati, il figlio è stato tirato via e boh. E a me è successa la stessa cosa con mio figlio, avevo due ex amici, no? Fissati con l'essere vegani. Mio figlio era in classe con il loro figlio, quando aveva il raffreddore mi dicevano che era colpa del latte che beveva e del fatto che mangiava la carne. Ma chi lo diceva? Questi amici? Questi due deficienti. Vabbè, ma chi se ne frega? La madre sei tu. Ma infatti, ma sentirti dire così e sentire che il figlio, il loro figlio di 10 anni dice a mio figlio ti viene un tumore se mangi la carne a calci, cioè il figlio di 10 anni detto, il figlio di 10 anni diceva a tuo figlio il mio ti viene il tumore perché tua madre ti dà la carne da mangiare. Ma questo è l'indottrinamento ai ragazzini praticamente. Esatto, cioè ma ti sembra un paese normale? No, un paese per fortuna no. Che vengano da te a linciarti perché hai messo due cacchio di conigli, hai fatto la foto o rompi le balle perché tu sei un provocatore intelligente peraltro. Vabbè, ma il problema non è questo, il problema non è questo, il problema è quello che tu ci hai raccontato. Cioè il fatto che esistono delle persone, un bambino di 10 anni che dice a un altro bambino. Poi ha avuto la seconda figlia, no? Il secondo genito, una bambina che la crescevano. Adesso non posso fare marche perché è così, no? Ma ci sono dei particolari biscotti per le signore, vabbè, allora, diciamo, in carne, così la svezzavano invece che con i plasmon, con i Vita Snella. Vabbè, ma chi se ne frega, ragazzi, adesso chi se ne frega? La mia pediatra ha detto: a quello lì viene l'osteoporosi a 30 anni. Vabbè, ma questa è una discussione infinita. Ciao Lisa, ciao. Parenzo, sei un asino. Il riso bianco lo vogliono loro, non gli piace la pasta, svegliati. La Zanzara. (800) 24 00 24 per entrare nel grande culo della Zanzara, e anche in quello di Cruciani. 393 717 1701 per il vostro fetido vociare tramite WhatsApp. Ma chi è sta matta qua, o matto? Non lo so, perché chiamano tutti qua, fatti delle domande e datti delle risposte. Ma no, mi sono già dato delle risposte e sono molto contento. E la polizia vegana. La polizia vegana è entrata in un supermercato milanese. In un supermercato milanese esiste anche, ti assicuro, esiste la polizia. Esiste la polizia vegana. Italiana. No, ma anche la polizia vegana. Fermi, polizia vegana, polizia vegana. Ti dichiaro in arresto per infrazione vegana. Raggio deveganizzante, fuoco. Signora, mi scusi, io sono VC, Vegan Police, polizia vegana. Lei ha la malaugurata idea di comprare Ebbene sì. Questi pezzi di cadavere. Li comprerò comunque e non desidero essere indottrinata, grazie. Questi animali sono nostri fratelli, soffrono come. Per favore. Vegan policy, polizia vegana. Guarda, levati, sei nel giorno sbagliatissimo. Ma perché sono nel giorno. Sei nel giorno più sbagliato che potevi immaginare. Sì. Levati dalle palle che ci voglio di mangiare la carne. Ma guardi che lei è complice di un omicidio. T'ho detto, levati dalle palle. Hai capito? Io mi levo dalle palle, non sono però cazzi tuoi. Levati dai coglioni. Hanno sofferto quegli levati animali. Levati dai coglioni. Ma io mi levo anche. Ho detto di levarti dalle palle. Mi levo dai coglioni. Vai. Qual è il problema? Nessuno. No, io cretino, io non l'ho offesa, io l'ho posto solo una domanda. Idee. Non rompere le palle a chi viene qua. Ma ho posto educatamente una domanda, senza. Ho detto educatamente. Hai scelto il giorno cliente. Sbagliato. Te lo dice anche il signore. Come? Se è nervoso lo lasci stare. Sì, sì, ma infatti adesso l'ho lasciato stare. Posso chiedere una cosa? Lei che espone queste carcasse non si vergogna, cioè è triste, sono vite, esseri viventi come noi. Quando muoiono le persone umane? Sì, ma noi non le mangiamo le persone. Sono umane, questo è un capriccio. Chi l'ha detto? Scusi, mi sta dicendo che ci sono dei cannibali qua e che mangiano le persone. Io non ho detto questo, magari da qualche altra parte. Signora, mi perdoni. Vegan policy, polizia vegana. Lei ha appena preso dei pezzi di cadavere di esseri viventi che soffrono come noi. È complice di un omicidio. Sì, sono lei, non si vergogna di comprare queste carcasse che vengono. È un capriccio, lei può mangiare anche solo verdura. No, io ho bisogno di mangiare carne, proteine. Ma le proteine si possono mangiare anche con i fagioli, con i legumi. Ma certe cose lei può non rinunciare, le posso mangiare, signora. Comunque sentami, mi lasci tranquilla, per favore. Ma hai visto che rompi i coglioni questi qua? Giustamente la gente si incazza. No, però ma devo dire, a differenza di altri vegani, questo qui era di una gentilezza anche eccessiva, disarmante. Secondo me, anche eccessiva. Quasi sì, disarmante. Anche cioè, sarebbe da aprirgli tutte le porte, tanto per dire. Però no? Gente incazzata, hai visto? Quando gli vai a dire, lei sta sì, mangiando ma poverino, un cadavere. Mi sembra di una tranquillità. Sì, di ma ti pare che uno si inventa la polizia vegana, ragazzi? No, ma è pericolosissima questa cosa qua. Questo è pazzesco. È pericolosissima. Cioè, esistono persone che si spacciano come la polizia vegana. Perché folle. A quello arriveremo, eh? A quello arriveremo, al grande tribunale vegano. Allora, Pino dalla provincia di Cuneo, dai. Come scrivono giustamente su Twitter, vi dichiaro in arrosto. Pino, provincia di Cuneo, vai. Bravo questo Marco Soldà. Bravo. Vai, Pino, sì. dimmi. Sì, Parenzo o ci fa o ci è, perché sulla questione di Cazzola non sapeva cos'altro dire, nel senso paragonare Salvini ai terroristi. Nessuno la parla dei terroristi, Cazzola ha detto un'altra cosa, ha detto che quando si rende in politica sì, una persona sì, sì. bersaglio, c'è il rischio che faccia la fine di Marco Biagi. Marco sì, Biagi è stato identificato. Prendersela con Salvini. Ma nessuno, non è Salvi, è il simbolo. Se tu dici che Marco Biagi è un assassino perché ha fatto una legge vabbè, sul lavoro avanti, che uccide. Allora, Pino. No, la questione Parenzo deve darsi una regolata, perché no, lei deve darsi una regolata. No, dammi pure del tuo, io non mi formalizzo anche se ho 64 anni. Ma io non la conosco e non mi interessa. L'età avanzata sia simbolo di rimbambimento. No, comunque, no, è per educazione credo di lei. Mettiamoci qui a nostro agio. Volevo soltanto farti notare questo. Allora, siccome mi pare che in questo momento ci sia il tiro al piccione a Salvini, è comodo prenderlo con Salvini, e allora ogni qualvolta Salvini dica qualche cosa, lei apre il cielo. Salvini è presente in moltissime trasmissioni, ha tutte le possibilità per difendersi, non c'è nessun tipo di problema sì, da questo punto di vista. Certo, vai Pino, perché cosa hai chiamato? Spiegami. Ma ho chiamato per questo, perché Parenzo quando fa certi paragoni deve fare un po' attenzione. Io ha fatto il paragone che ci può anche stare sul fatto che se uno prende di mira una persona è evidente, gli dice criminale fuori sì, dall'Italia. Allora, dillo a uno come Salvini che penso sì avrà tutti i suoi problemi, i suoi difetti. Io tra l'altro ho detto presentandomi che sono di origine meridionale, sono terrone, quindi non ho nessun problema, non sono. Vabbè, Pino, ho capito. Mirko da Brescia, vai Mirko. Pronto? Dimmi. Ero curioso se mandavate la mia chiamata, perché avevo la sensazione che selezionavate veramente i tangheri, perché è gente che ragiona i tangheri, economia, i tangheri. Veramente. Dunque gli altri sono ma i tangheri, dai. Tu invece sei la persona intelligente. Mirko, no, non sono intelligente, anche perché sto per dare ragione a Parenzo, quindi quindi mi chiamo fuori. No, voglio dire che Parenzo, nonostante non mi stia simpaticissimo, dice delle cose che sono di una banalità incredibile. Bravo. Cioè, non so se voi avete fatto il militare, però quando si stava per entrare in mensa, si leggeva il menù, uno diceva cazzo, stasera si mangia. Non era così, non è facile cucinare per tante persone. Poi nella realtà di tutti i giorni, le persone che hanno bisogno, in parte il kebab bar, così lo si conosce, sono bravissime. Vabbè, Mirko, persone. Scusa, che cosa hai chiamato a fare? Spiegami, per dire cosa? Allora, dire perché non è un menù, no, andiamo al sodo, sembra, andiamo al sodo, dai. Parenzo è sempre solo, sembra che lo fai apposta, dagli sempre contro a quello che dice, sembra dunque? Che la combinate. Quindi ha ragione Parenzo. Su che cosa? Sul menù. Tutto, bene o male quello che dice, non è che dice cose sbagliate, però boh, mi sembra che sia una società un po' di merda per come sta andando. E mi sembra una società di ma sei confuso? Una società di merda come sta andando? La gente che chiama i quelli lì. Vabbè, Mirko, ciao, ciao, ciao. Confuso, ciao, grande confusione, ragione, grande confusione, ciao. Parenzo, ma secondo te gli italiani che muoiono di fame, i poveri, possono essere incazzati se i profughi prendono il menù dallo Stato e lo Stato loro non dà niente? O dobbiamo sempre tacere? Parenzo, usa il cazzo di cervello una volta, solo una volta, ti prego. E io pago, e io pago. Vorrei vedere se io non ho niente da mangiare, se lo Stato mi fa mangiare gratis a me che sono italiano. A me lo Stato non mi fa mangiare gratis perché sono italiano. Questo è il problema. Beh, sicuramente Parenzo non hai fatto il militare. Avessimo noi avuto quella roba lì da mangiare, avremmo fatto dei salti di 6 metri. Ma vai a cagare! Radical sick di merda! Ciao, chiamo da Vicenza e volevo rispondere a quella pazza che ha appena chiamato, che anch'io sono da Vicenza, però sono nato comunista, frocio e vegano. Luigi, provincia di Milano, vai Luigi. Giuseppe, ciao. Bella questa cosa qua, frocio, come ha detto, frocio, comunista e vegano. Bastava che diceva animalista, le avevate dette tutte. Vabbè, vegano più o meno, dai, vegano, animalista lo stesso. Vai Luigi, dimmi. Sì, no, proprio infatti su questo, io ho ascoltato la tua disavventura praticamente, e una cosa che praticamente si abbina anche con la mia, è sfuggita però secondo me, è quello che quando tu praticamente gli dicevi della polizia, non so se io ti consiglierei di riascoltarla quella cosa. Ma che cosa, scusa, spiegami. Quando erano giù sotto che ti insultavano più di sì, c'erano sì, i fumo, sì. Tu gli dicevi praticamente della polizia, no? E questo si è messo a ridere dicendo tu non sai cosa facciamo noi, altro che la polizia, come per dire sostanzialmente che questi sono supportati dalle forze dell'ordine. Non mi pare proprio, guarda, cioè, veramente guarda, adesso, la questa mia testimonianza purtroppo... In che senso? Sua, spiegami, che testimonianza è? È una testimonianza che sostanzialmente è una collusione relativa agli animalisti. Mi cioè, hai fatto a botte con gli animalisti? No, io ero sempre a casa mia, sono sempre stato aggredito dagli animalisti. Ma perché sei stato aggredito? Sono stato aggredito perché mi ribellavo ai continui abbai piuttosto che ai cani liberi, praticamente ovunque. Porti la bambina all'asilo, c'hai i cani liberi, Rottweiler. Ma perché ti dovrebbero aggredire gli animalisti? Spiegami. Mi aggrediscono perché mi faccio le denunce, perché comunque sia... Allora, c'è ma stato... le denunce contro... Però ragazzi, non andiamo in confusione, sennò la gente non capisce. Luigi, il motivo per cui ci stai chiamando qual è in fondo? Il motivo è un sostegno relativo... Vabbè, ma d'accordo, diciamo... il sostegno me ne sbatti coglioni, va bene, ecco, ma qual bravo, è il punto? Spiegami. Il punto è che i tribunali e i media e sostanzialmente chi... fra questa massiva diffusione di cani... Ciao amico mio, no? Marco da Bolzano, dai Marco, forza. Marco? Pronto? Dimmi Marco, dimmi. Dunque volevo dire, lasciando a parte il menù che qua a Bolzano purtroppo noi andiamo al ristorante e ci danno come contorno il riso in bianco e va bene. E quindi lo mangiamo anche noi, non è che il riso in bianco sia merda. Vabbè, allora? Dice. Ecco, non ho detto che è merda. Che qua a Bolzano, all'Hotel Alpi, un hotel 4 stelle, sono alloggiati appunto ancora questi migranti. Sì. E devono fare 100 metri a piedi per andare nella mensa a fare il pranzo e la cena. E si stanno lamentando. Che ne sa lei? Guardate che si stanno lamentando per fare 100 metri per andare a mangiare, scusa. Che ne sa lei? Eppure, venga qua e vada all'Hotel Alpi. all'hotel Alpi a Bolzano, non so dove, lei dice che gli immigrati si lamentano perché devono fare 100 metri per andare dall'hotel al ristorante. È vicino alla stazione. E vabbè, ci informeremo se si lamentano. Certo, se si lamentano per fare 100 metri sono degli imbecilli. Speriamo di no, Parenza, no? Speriamo che non ma si lamentino. Non lo so, ma un signore tale. Vabbè, che segnale, c'è, perché non è credibile. Non sì, è credibile. Va bene, sarà questo uno scandalo, d'accordo? Non so si se lamentano scandalo. Anche di fare 100 metri. Dai, ho capito, ma se è vero che si lamentano, non mi pare. Ma il caso sì, di lamentarsi per fare 100 metri, è un metri, caso no? internazionale, è un caso vale. internazionale. Ciao Marco, ciao. È un ciao, caso internazionale. Ciao. Mangia bene, mangia sano, salva una pianta, divora un vecchio. La Zanzara. Allora ragazzi, noi continueremo a prendere per il culo tutti, vegani compresi ovviamente. Tra poco sulla Rai riprende Nemico Pubblico. Tra poco riprende Nemico Pubblico. Tutti collegati per una satira, vera satira, Parenzo, diciamo la verità. Satira, vera, pungente, sì, che sì, non ha sì. Vedi sulla lingua che non ha, non ce n'è per nessuno. Ma noi abbiamo una grande anticipazione. I vegani by Giorgio Montanini. Vai Giorgio, vai. Carissimo Giuseppe Parenzo, ciao a tutti. Vai vai Giorgio, vai. Ma è lui live? Live, sì, live, sì, live. Ma è in diretta? Parenzo, fai finta di divertirti con me. Io ma sono sei in diretta o è registrata questa? No, parola, è diretta, è tutta diretta. Vai Giorgio, non lo interrompere, non lo interrompere. Vai Giorgio, vai. Io sono solidale con quello che ti è successo, carissimo Giuseppe, perché il commandos che è entrato da te, questo commandos vegano, devi sapere che è entrato anche in un circo nelle Marche, sì. Sono marchigiano a Macerata, campo circense, un commandos di vegani, entra nel cuore della notte in un campo rom, che voi sapete meglio di me che il campo rom alle 4 della notte non è il posto più accogliente, non è l'Hilton, eh? No. Cioè che io per carità non c'ho nulla contro i rom a differenza tua che li bruceresti tutti, Giuseppe, però dico semplicemente che i rom sono stronzi almeno quanto Salvini, quanto me, quanto te, quindi se tu gli entri dentro casa alle 4 di notte, sì, giustamente si possono incazzare, quindi io li stimo sti vegani che sono entrati lì dentro e che hanno fatto per fare la rivoluzione, no? Questo sì. Commandos ha liberato tutti gli animali delle gabbie, tra cui un ippopotamo, questa è una storia vera, andate su internet, vedete, ci stanno le foto. Macerata, vai. Macerata, liberano sti ippopotamo e sti ippopotamo vede sti vegani, dice ma chi vi ha mandato ragazzi, grazie mille, scende la scaletta, non conosce Macerata giustamente l'ippopotamo, va sulla statale, senza attraversare sulle strisce, dall'altra parte incredibilmente la statale, arriva una macchina che lo c'entra pieno, una macchina sicuramente dei mangiacadaveri, un assassino, no? Piglia sta ippopotamo pieno e muore sul colpo. Se pensa che le ultime parole proprio dell'ippopotamo mentre sì. stava aspirando fossero vegani de merda, fatevi i cazzi vostri la prossima volta, perché giustamente l'ippopotamo non conosceva benissimo la fauna maceratese. E quando hanno veramente, questa è una storia verissima, quando soccorrono sto vecchietto che purtroppo si è trovato l'ippopotamo davanti e gli dicono ma guardi che lei sta benissimo, è illeso, torna a casa, questo qua ha detto no, portate al pronto soccorso, perché io ho un trauma cranico, ho la testa spaccata sicuro, perché ma no, ma lei sta bene, ma portate al pronto soccorso, che l'ultima cosa che mi ricordo di questo incidente è un ippopotamo che mi attraversa la strada, quindi starò male, che fare l'ippopotamo c'era. è una storia fantastica, perché io mi sono convinto sì. che almeno uno di questi vegani che è andato lì a aprire ste gabbie sì. quando si è trovato questo ippopotamo che scende la scaletta avrà detto al capo vegano, detto ma scusami, ma l'habitat naturale dell'ippopotamo qual è? E il capo vegano gli ha detto ma ancora ste domande fai, lo sanno tutti, le Marche, gli ippopotami crescono sui sibillini, monti sibillini, aquila, lupo e ippopotamo, tutti lo sanno, guarda come si diverte sulla statale, guarda. Ecco, questa storia che io sì. racconto, che è solamente, cioè la racconto e basta, nasconde sì. un fatto fondamentale. Che nasconde? Che nasconde? Nasconde il fatto che questi vegani, che devono essere rivoluzionari, in realtà sono solamente borghesucci da salotto, che fanno? Tradiscono la rivoluzione partendo proprio dal principio base della rivoluzione. Carlo Marx, che tu sicuramente apprezzerai, Giuseppe. Io beh, sicuramente sono un grande stimatore, grande fan. Capisci, perché capisci? Tradiscono Carlo Marx, caro semplicemente Giorgio. Perché Carlo Marx diceva che la rivoluzione si basa su un concetto, la coscienza di classe. Sì. tu devi capire che se sei fratello mio, io, tu, Giuseppe, Parenzo, eccetera, i vegani, siamo tutti fratelli. Sì, tu sarai un po' più famoso di me, sì, però tu non conti un cazzo lo stesso in questa società. Uguale, nel uguale. Senso che il potere è un'altra sì. cosa. Sì. E se tu, vegano, rompi i coglioni a me, sì. a Cruciani e a Parenzo perché mangiamo l'hamburger, non sei rivoluzionario, sei reazionario. Questo tu può essere vero. Certo, perché se vuoi fare la rivoluzione, vegano, la rivoluzione si fa su Facebook. La rivoluzione sai dove si fa? Dove si fa? Con le pistole. Beh, giusto, giusto, vero, vero. Colpendo il potere, io non sono un pacifista. Io dico, vuoi fare la rivoluzione? Ammazza Francesco Amadori, però. No, beh, aspetta. Coglioni a me. No. No, io dico, io se vuoi fare la rivoluzione, io sono contrario. Io noi siamo contrari, anch'io sono contrario, però tu però dici una cosa giusta. Se tu vuoi fare la rivoluzione, non devi rompere i coglioni a Cruciani, a Montanini e a Parenzo. Sì. Devi farli, devi convincerli, portarli dalla tua parte e dire, domani vogliamo fare rivoluzione, dobbiamo colpire il potere. Sì. Francesco Amadori, io sono nella porta, tinton, parola di Francesco, puff, e gli spari. No! Perché sì, perché sì. Il giorno dopo, Giovanni Rana fa solo ricotta e spinaci, perché si caga sotto. Ecco come si fa la rivoluzione. A mo' te telefonano i vegani e ti dicono, quell'ignorante di Montanini deve sapere che noi la ricotta non la mangiamo, perché è fatta con la mucca. Io sì, però se dico seitan e tofu, non ride nessuno, quindi è inutile che dico seitan e tofu. Scusa Giorgio, lo stesso ragionamento si potrebbe esportare per Cremonini, cioè il signor Cremonini, quello che fa le mortadelle là. Quello... Ma c'è, ovvio. Cioè il vero vegano dovrebbe andare lì con la pistola? Assolutamente. Com'è sì. la scena? Com'è la scena? La scena è quella che fanno, io le scene non le conosco, nel senso io dico semplicemente, non so come si fa un blitz del genere, questo devi chiedere a cui bisognerebbe chiamare qualcuno del fronte animalista, quelli che sono no, venuti. Ma no, di quelli, ma anche bisogna, che ne so, qualcuno dei NAR o della cosa, delle Brigate Rosse, magari sai questi che stanno sì. in giro, gli chiedi come si fa un blitz del genere, eccetera, e loro dovrebbero fare la rivoluzione in quel modo. Cioè usare anche il covo di Via Gradoli magari. Il covo di Via Gradoli, tu sequestri Giovanni Rana e lo porti lì dentro. Non c'è dubbio, non a Cruciani. Perché il problema qual è? Qual è il problema? Il problema vero è questo. Sì. I vegani sì. amano tantissimo gli animali, ma fondamentalmente odiano gli esseri umani. Vero. Quindi tu, se la rivoluzione la vuoi fare, non puoi avere la sensibilità selettiva. L'agnello a Pasqua, per carità, non si può mangiare, ma poi porti scarpe sì. a $100, 100 euro, fatte da un bambino in Vietnam, pagato 80 centesimi, un bambino che magari ha 8 anni, perché guardate le scarpe che portate, vegani, adesso toglietevi le scarpe, sicuramente sono fatte in Vietnam, o in Cina, o in India, paesi sottosviluppati che noi sfruttiamo, come sfruttiamo gli animali, sì. e voi però le scarpe le portate. Allora tu, se porti le scarpe fatte da un bambino, 80 centesimi, ma sì. poi non mangi l'agnello, comunque sei una merda. Sei una merda. Ma sei una merda come me, come te, Cruciani, che mangiamo la carne e ce ne freghiamo di tutto. Bisogna dire che siamo. Però noi lo sappiamo. Noi lo sappiamo però ad essere merda. Bisogna essere orgogliosi di dire siamo delle merde. I vegani invece si vogliono sentire migliori. Quindi odiano l'uomo. Però se odi l'essere umano, se sei un sociopatico, sì. non risolvi il problema facendo il vegano. No. Il problema lo risolvi dallo psicologo. E allora, cari vegani, andate dallo psicologo Giorgio. E prendete l'Oxanax. Giorgio Montanini, nemico pubblico. Grazie, a presto. Grazie. Ciao, Gio, un abbraccio. Ciao, tesoro. Ciao. A voi, ciao. Quanto mi stanno sul cazzo i vegani, oh. La Zanzara. Cruciani, bellissimo sei, e quella tipa ti correva dietro perché voleva il salame, non hai capito? Ma non il salame, quello che avevi in mano, qua un altro salame. Un dramma assoluto. Cruciani ha fatto involontariamente diventare la figlia vegana. Credo che preferisse averla troia che vegana. Allora ragazzi, io non ho fatto per niente diventare mia figlia vegana nella maniera più assoluta. Mi ha chiesto semplicemente, non diciamo stronzate, dai, cioè, mangia la carne tranquillamente. Mi ha chiesto semplicemente di andare da Zanzarina, perché ha compulsato internet, come si dice, credo che la madre l'abbia fatto vedere internet, insomma mi ha detto papà, Zanzarina non bisogna sì. ucciderla. Addirittura oggi Parenzo mi ha mandato un messaggio mi ha mandato un messaggio. Ma ha ragione, ma è normale. Che dai. Posso leggere tranquillamente. È sensibile, una ragazzina. Vabbè, ma è normale, a 10 anni che deve essere. Ma no, ma chiunque. Taglia la gola, taglia la gola alle oche. Cioè, ma anch'io, è una persona normale, cioè non è soltanto non diciamo una bambina. Dai. È una persona normale che, come tutte le persone normali, la maggioranza, ritengono che se conoscono un animale in modo ipocrita, ovviamente non nessuno farebbe. Di dire quella capra, cos'era, quella pecora, ma quell'agnellino là, zanzarina, banali ma vere. Normalmente viene ucciso come tante altre. Salvarne uno lo sa, salvarne una non conta un cazzo, cioè non fa nulla. Ma il fatto di dire qui vabbè morirà, poverina, è chiaro che uno la vuole salvare, è evidente. Ma sì, vabbè, è un'ipocrisia, cioè per i bambini ci sta, per te no. Come no? Ma esiste l'ipocrisia, cosa c'entra? Allora aspetta qui. Allora, il messaggio esiste, la sensibilità esiste. Allora, ciao, sono Viola. Zanzarina non morirà con un colpo di pistola. Tu me la compri. Allora, ho capito. È rimasta impressionata, ma se tua figlia è rimasta impressionata dalla tua crudeltà, ma che dal fatto crudeltà, che dicevi ma non gli taglieremo dire la gola, mi piacerà mangiarla. Non cominciare a dire stronzate, perché io non ho detto gli taglieremo la gola, non dire falsità. Dicevi, sì, morirà, non ho affatto detto questo. Finirà, non ho e affatto. Sarà la sua bellissima fine. Quello ha reso. No, ho detto che mi piace l'agnellino, sia vivo sia morto. Questo ho detto, non è che ho detto, ma che bella l'uccisione. Proprio questa qua morirà. E allora chiunque rimane impressionato, qualsiasi persona senziente. Qualsiasi persona senziente, qualsiasi persona ipocrita. I bambini ci sta. I bambini ci sta. Ma non è vero, non è vero. Comunque ragazzi, la cosa incredibile viene oggi dall'Olanda, dove un paese, un comune, un piccolo comune, ha mandato una mail alle dipendenti. Niente gonne troppo corte né stivali troppo sexy per non urtare i signori musulmani. Per non urtare i signori. Una stupidaggine. Una stupidaggine totale, assoluta. Ma dillo con più forza, stupidaggine. Ma perché stupidaggine, sei abbastanza moderato. Niente. Sei ma moderato su questo qua. Ma che moderato? Una allora, stupidaggine. Le autorità che non vogliono urtare gli immigrati ma di fede islamica. Che non sanno niente di integrazione. Andrebbero, no, andrebbero presi a calci in culo. Allora, io però non ne posso più di quelli che mi mandano i messaggi tipo Guido Bagatta, che abbraccio naturalmente, un mio carissimo amico, e dici: se dovessimo uccidere personalmente tutto quello che mangiamo saremmo tutti veg. Ma non ah, è vero, certo, ma bravo. Che cosa ma vuol vedi dire? Che anche lui ragiona, ma è un ragionamento per, ma quello è malato dei cani, che ma vuoi che, fare? Cioè. Ma che ci, ma sono persone ma normali. Non è il punto, non è la quello. La norma siamo noi. Ma che dici, ragazzi? Ma siamo noi che ovviamente ci impressioniamo, ma mangiamo, siamo la norma, no? Ma che vuol dire? Ma non siamo noi che dobbiamo ammazzare gli animali, sono altri che fanno questo mestiere. Che c'entra se dovessimo ammazzare ognuno di noi un animale? Se tu porti, se tu hai una capretta. No? È chiaro che dici il capretto, adesso lo sai che il capretto si mangia, sì, certo. Se dici, ah, guarda che bel capretto, tra poco finirà in pentola. Ah, guardi, lo salvo, lo salvo, lì, lo salvo. E ma che certo, allora? E allora? E allora, certo, una volta che lo salvi, ne arriva un altro poi. Quando esci dalla porta ne arriva un altro. Ma che ipocrisia è? Ma non che è ipocrisia? Un'ipocrisia. Ma è sì, è un'ipocrisia. Tant'è allora, che ragazzi, ti stai fermi anche Bagatta, che sicuramente fermi non tutto. È un matto. Anzi. Succede in Olanda e a decidere il comune di New West, cittadina alle porte di Amsterdam, che conta 133.000 abitanti. Le dipendenti non devono indossare una gonna o un vestito che arrivino sopra il ginocchio, e gli stivali al ginocchio sono inappropriati durante il lavoro al banco. Non bisogna urtare gli immigrati di fede islamica abituati ad avere a che fare con donne velate. Vabbè, ma perché, no? Perché questi quando vi prendono a calci nel sedere gli abitanti? Ma infatti mi pare che ci sia una polemica non soltanto in Italia ma anche lì su questa stupidaggine. Questi sono come quelli che dicono che le mie provocazioni portano violenza, capito? Provocazione, le mie discussioni, no, le mie idee portano violenza. La stessa cosa, gli stessi. Red Ronnie, ma è chiaro che quella era una provocazione. Gli stessi, che gli stessi. La violenza non c'è dubbio, no, beh, ma non è. Ma non va bene, dire. Simone da Milano, vai, 800-24-0024, Simone, vai. Ciao. Dimmi. Ascolta, volevo innanzitutto parlare di due cose. Quello sì. Lì dei musulmani, delle donne che non possono mettersi le gonne più le minigonne per offendere i musulmani, hai ragione pienamente. Chi ha ideato questa cosa qua dovrebbe essere preso a calci in culo, perché, scusate l'espressione, è proprio un coglione. Totale, e poi, totale. Ce l'ho con te perché E poi ce l'ho con te perché tu hai sbagliato ad andare davanti ai vegani con un salame. Ho sbagliato io a, portare il salame. Ma qual è il problema? Adesso non si può portare il salame davanti ai vegani. Adesso è diventato un reato esibire il salame davanti a militanti vegani. A parte che militanti vegani, ma chi cazzo sono? Ma che c'è una cosa? Che c'è una categoria che sono militanti vegani? Vogliamo dare, come dire, nobiltà e risalto a una categoria? Sono quattro, secondo me, poveracci. Ma cosa stai dicendo quattro? Vai in giro per Milano, quanti negozi vegani stanno sorgendo? E beh, allora qual è il problema? La gente si sta svegliando. A parte che io non sono a parte che male, sia agli animali che al pianeta. Ah, ecco, è arrivato. È arrivato Simone da Milano che si è scoperto essere vegano. Sai in realtà. Quanti litri di acqua servono per fare un chilo di carne? Aridaio, con sta storia, i litri di acqua che servono a fare un chilo di carne. Quando non sai portare robe scientifiche, la metti sì, sulla mettiamo che sia vero, e allora? Mettiamo che sia vero, allora? No, non è mettiamo, è vero quella allora? Roba lì, è vera. Allora basta, cioè allora? Bisogna mangiare meno carne. E vabbè, dunque, chi continua a mangiarla, che cos'è? Complice della distruzione del pianeta? Certo che comunque certo. Allora perché pianeta. Non si istituiscono i tribunali contro governo, le persone? Io personalmente se fosse al governo. Meno male che non ci sei. Limiterei fortemente il consumo di carne. Ma tu lo vedi, Parenzo, lo vedi? Un mattatoio paghi il 70% legittima. Ma lo vedi dove si va? Vuoi avere un kebabaro e un kosher, paghi l'80. Cioè, tu capisci dove si va ad arrivare? Cioè, dove si arriva? Si arriva a questo signore qua. Legittima, non Simone, passerà mai. Simone da Milano. No, ma questo è il fondamentalismo. Ma cioè, no, però questo qua non è un fondamentalista, come no? Perché non era solo. Vuole mettere le tasse in più a chi produce la carne, le tasse in più ai kebabari. Questo ritiene, io credo che sbagli, ma ritiene legittimamente che bisogna mettere una tassa. Se tu trovi normale che questo signore Simone da Milano, vegano militante, faccia il partito, prenda i voti su questa cosa qua. E si metterà, ma per carità, ma nessuno dice carne, mica ottimo. La voglio ammazzare, ma se non tu mi dici non che mi pare un nazista questo qui, mi pare secondo uno me si avvicina moltissimo a un fondamentalismo di tipo nazistoide, assolutamente. Come Simone, scusa un attimo, dunque non ho capito, sei nazistoide, ma che cazzo stai dicendo? No, sei un nazi vegano, tu il prototipo perfetto, prototipo perfetto del nazi vegano sei, ma perfetto, uguale, sì, bravo, sì, dai, sì, dai, prototipo perfetto del nazi scemo. Beh, vabbè, può darsi, secondo te sono un nazi scemo, secondo me sei un nazi vegano, secondo me sei il prototipo perfetto del nazi vegano. Spiegami una cosa, ma non è essere nazi vegano, è avere rispetto della vita degli altri, che tu non ce l'hai, per cui è uguale, no? La cazzata di andare in diretta con il coniglio, ma lascia morto. Perdere il coniglio, ma che senso ha quella roba lì? Ah, perché il coniglio morto è vietato, è una roba stupida, perché invece quelli che espongono il coniglio per dire non bisogna mangiarlo va bene, io invece che lo porto davanti alle anche telecamere, quella lì la trovo stupida, io personalmente non la condivido quella roba, vabbè, cioè, non la condivido, tanto quello hanno fatto, quello e chi se ne frega altri, e chi se ne frega che non la condividi, però quello è successo, hanno portato un coniglio, portano i conigli morti per dire ecco quello che succede ai conigli, vietiamo il coniglio, buttiamo via il coniglio dalle tavole degli italiani, e io ho fatto la stessa cosa, ecco il coniglio, io me lo mangio, è legittimo mangiarlo, non voglio che sia tolto dalla tavola degli italiani. Qual è il problema? Non ho capito. Qual è il problema? Perché io sono... Il problema è che milioni di conigli vengono ammazzati ingiustamente, vengono fatti soffrire per delle per la gola. E per te, uccidere un coniglio è come uccidere un essere umano? Certo, che differenza vabbè, c'è ragazzi, tra te e un coniglio? Vedi, non siamo cioè, su un piano... Cos'hai di più? Cioè di tu salveresti tranquillamente davanti, che ne so, il tuo cane e Giuseppe Cruciani? Cioè, hai un cane tu? No, io ho un gatto. Un gatto, il tuo gatto è Giuseppe Cruciani. Cruciani e il mio gatto io salvo tutti e due. Perché no, ma metti che devi scegliere. Chi salvi? Io non ti conosco, cioè obiettivamente. Ti ma certo, non mi conosci, prima. No, ma io un essere umano. Un suo se posso salvare te il gatto piccolo, salvo sia te che il gatto. Vabbè, questo adesso non fare il paraculo con me. Se no, devi scegliere tra me e un gatto, tra me e il tuo gatto. Come no? Hai detto che lo stesso valore. No, ti sbagli. No, ti sbagli, amico mio. Abbiamo tutti lo stesso valore. Vabbè, ragazzi, siamo su un piano proprio. Abbiamo tutto lo stesso valore, come tu non meriti di subire violenza, non merita di subire violenza. E dunque dovremmo tutti smettere domani mattina di mangiare la carne, di mangiare il pesce, eccetera, no? Giusto? Certo, anche i pesci soffrono. Sì, anche i pesci soffrono. Bene. Ma fino a quando lo dice e non impedisce alle pescherie di esistere? Vuole impedire. Ma non mi pare che faccia azione. Cioè, fino a quando vorresti chiudere tutte le pescherie d'Italia tu? Simone? No, chiudere no, però farmi pagare almeno un 80% di tasse sì. Le tasse che è come farle chiudere, che è come comportamenti che è come farle chiudere praticamente. che è come farle chiudere. Chiudiamo ad aprire un negozio vegano. Chiudi la pescheria, chiudi la macelleria, apri un negozio vegano. Capito, Barenzo, ma siamo, tu dai legittimità, non ti incazzi per queste follie. Cioè, questo vuole dire, questo pazzo qua, questo malato di mente, ha detto che vuole dare l'80% di tasse a un negozio di carne, di pesce. Ma tu ti scaldi così tanto per questi qui e non per gli immigrati. Ma questa è una nuova forma di nazismo. È una nuova forma di nazismo. Sono quattro persone, cinque, alcuni esaltati. Ma non mi pare che questo sia un esaltato, è una persona molto lucida, molto lucida. È uno che, come negli Stati Uniti, pensa che dove esistono questi partiti, che il consumo di carne vada tassato, ha legittimità di esistere. Tassi no, la per carne, te tu sei un assassino. Io che mangio la carne sono un assassino, ma Simone. Non mi interessa. Simone, sono un assassino o no? Ma te ti droghi forte, scusa, eh? No, io non mi sono mai drogato in vita mia. Al massimo, che penso se ti drogavi, che cazzo dicevi? Scusa, eh? Sì, ma lascia perdere la droga, non c'entra niente. Cioè, io voglio. Senti, amico mio, sono un assassino o no? Se vuoi salvare la vita a tutti, vabbè, il mondo meraviglioso, vuoi salvare la vita a tutti, va bene. Uno può anche dire il mondo, sogni un mondo dove nessuno muore. Per che c'entra la storia da dare a mangiare agli animali che muoiono. Senti, Simone, rispondi a questa domanda. Sì, ma le domande le faccio io. Sì, sì, è giustissimo. Le faccio io, Simone. Le domande le faccio io. E poi? Bravo, le domande le fai tu e poi vedrai quando tra 50 anni quando ci troveremo nella merda. Sono un distruttore del pianeta, sono un distruttore del pianeta, Simone. Ciao, arrivederci. Ma però ciao. Lo incentivi questa cosa qua. Certo, sono un complice, siamo tutti complici, tranne voi eletti, siamo tutti complici della distruzione del pianeta. Non ti preoccupare, è tutto vero, così sei contento, ciao. La zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ragazzi, in tutto questo casino dei vegani, fronte animalista, eccetera, eccetera, a proposito, stasera grande battaglia, A ora tarda, dopo le 23 a Matrix, caro Parenzo, ci sarà molto anche Mocavero 100% animalisti. Mamma mia, grande duello, speriamo di essere carichi, di arrivare lì belli carichi. Io almeno, tu non ci sei. Perché si combatterà una enorme battaglia. In poltrona col popcorn e le patatine, però, a godermi lo show. Ci siamo dimenticati in questo trambusto, la resurrezione, il ritorno di Riccardo da Roma la settimana scorsa. Zanzarologi. Zanzarologi. Antologia della zanzara. C'è Riccardo da Roma, che non so se è Riccardo da Roma, The Original One. Parenzo, stai zitto un attimo, Riccardo, vai. Sei tu? Mamma mia. La demenza pura, il simbolo della decadenza dell'Occidente. Cioè? Il simbolo della decadenza dell'Occidente. Ecco, aspettato mesi di intervenire. È una cosa, la solita dividere a bolsista, zuccherosa. Bisogna integrare di più. È inutile chiudere le frontiere. Accettiamo appena che cazzo quando parlava quello gli diceva che gli islamici no quello, ma cosa vuoi quello chiudere? Ha bloccato il traffico per il Ramadan. Parenzo, cosa c'entra questo che ha bloccato il traffico? Ma perché non si può bloccare il traffico? Ma che cazzo, una cosa allucinante. 90% di Ostia musulmani. Ma infatti è sbagliato creare dei problemi a Parenzo. Non ne frega un cazzo, perché Parenzo non è che viva Ostia. Ma non è che viva Montecatro. No, Parenzo va a comprare la Pata Negra, Parenzo va a passeggiare a casa d'Arizzoli, Parenzo va nei salotti chic. Parenzo gli islamici, sai come li vede? Li vede come i camerieri. E allora non gli frega un cazzo della scuola che celebra il Natale. Ma il Parenzo testa di cazzo della situazione, in nome di una presunta laicità, di presunte puttanate, eccede di zelo, fa incazzare tutti. Ma tu, Palestro, ma tu sei pure ebreo. Ma come cazzo fai a fare lingua in bocca con gli islami? Ma tu sei vissuto in Israele. Ma tu hai vissuto in Israele. Ma chi ha dei tuoi amici ebrei come vivono con gli arabi? Chi ha dei tuoi amici ebrei come vivono? Che loro sono circondati da questi che gli taglierebbero la gola domani mattina. Vivono blindati. Vivono che fanno il militare tutti quanti obbligatori. Aspetta, aspetta, Riccardo. Che cazzo dici, coglione? Questa è realtà. Questa è realtà, non sono puttanate alla Parenzo, è la realtà. No, Mogherini che piagne, che si mette a piagne. Tu pensa questi, ma tu pensa a Rashad al Baghdadi dopo che ha visto l'attentato, sono arrivati quelli, oh, Abu Bakr, abbiamo fatto l'attentato, perfetto, vediamo le reazioni. Ah, Mogherini che piagne. Questo imbecille bestemmia e festeggia il Natale, vergognati, bestemmia e difendi il Natale, testa di cazzo, hai bestemmiato in diretta e ti prendi la responsabilità, io ti denuncio, perché hai bestemmiato in diretta e difendi il Natale, chiudilo sto vulgare, chiudilo, difendi il Natale, questo infame di merda, ma che difendi il Natale, poi bestemmi, stupido, la ripeti, agliaccio, mi ripeti la bestemmia, agliaccio, agliaccio, mi ripeti la bestemmia, coglio, coglione, mi ripeti la bestemmia, quale sarebbe la bestemmia? Con chi bestemmia non faccio la transizione? Hai bestemmiato e ti senti il Natale, tutta testa di cazzo, testa di cazzo, hai bestemmiato, ti denuncio. Fermi, tranquilli, è un'impregazione, non lo so, è un'impregazione. Ripetilo tu, ripetilo tu, no, dimmi qual è la bestemmia, dai. Dai, state tranquilli. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta La Zanzara. Allora, devo dire una cosa, Parenzo, è stato arrestato a febbraio, poi lo si è saputo solamente nei giorni scorsi, il PR di Roma che andava a molestare i ragazzini, addirittura, secondo le accuse, li ricattava, no? Sì, li ricattava sì. Con i video, cioè. Con i video, perché questi qua facevano dei video, lui in cambio di soldi voleva dei video, oltre che delle prestazioni sessuali di tutti i tipi, tranne pare la penetrazione, diciamo, ma adesso non andiamo nei dettagli, comunque prestazioni sessuali. Questo tizio si chiama Nucci, Claudio Nucci. Mi piaci da morire, ti do tutti i soldi che vuoi, ho portato 50 euro a un fidanzatino mio, me mettono in galera, guarda, se ti dico l'età ti prende un colpo, così diceva a un suo amico, no? Ho portato 50 euro a un fidanzatino, certo, mio, certo. Mi mettono in galera, guarda, se ti dico l'età ti prende un colpo. Una delle vittime ha detto: ha iniziato a ricattarmi, a farmi capire che se non facevo certe cose poteva andare male. Mi chiedeva di mandargli le mie foto nudo e dei miei video porno e diceva: se tu non fai questo vengo sotto casa e parlo con tua madre. Allora, devo dirti la verità, io ho conosciuto questo Claudio Nucci. Questo Claudio Nucci l'ho conosciuto, questo signore, questo Claudio Nucci, non me lo quello ricordo molto bene. Quello c'ha tanti problemi, penso se i giudici sanno pure questo. No, ma che c'è? Quello lì, scusa, già c'è tanti problemi. È un aggravante perché lo conoscevo. Beh, scusa, sì, che cazzo dici? Sì, per ma lui, che poveretto. Sei impazzito, sei. Tutti i problemi al che già dice, sai, conoscevo pure Cruciani. Boom, via, ah, ergastolo, senza processo. Vai a far culo. Sicuro. Allora, no, ma la cosa curiosa è che questo Nucci lo conoscevo perché all'epoca, ti sto parlando di 15-16 anni fa, ha frequentato anche casa mia. Ti spiego un po' per spiegare. No, ma non c'è molto da spiegare, no, lo spiegherai ai giudici. Ma non c'è niente da spiegare ai giudici. Beh, sì, sai, è imbarazzante. Ma sto parlando di 16 voi, anni però... fa. Ma che c'entra? Allora, 16 anni fa, forse anche di più. Capisci che è una situazione imbarazzante. Ma non è una situazione affatto imbarazzante. Beh, allora, sì, io avevo no? casa mia a Roma, mi ero appena trasferito a Milano, dunque stiamo parlando di 16 anni fa. Affittavo la casa a un mio amico, il quale ogni tanto organizzava dei festini. Guarda, organizzava... sempre così. Ma ho capito, sempre ma ti sto raccontando la verità. Festi... Ma non devi raccontarlo a me, devi raccontarlo ai giudici. Ma non c'è nulla da raccontare ai giudici. Che succederà? Ma 16 anni fa, ma di che parli? Dai. Ricostruiranno la figura di questo qui. Vabbè, insomma, che diranno che era un pervertito, e siccome era un pervertito, non c'entra niente. Cruciani. 16 anni fa, ma quando mai? Insomma. Non l'ho mai più visto e me lo sono ricordato a stento. Questo mio amico l'altro giorno che mi ha chiamato e me l'ha ricordato. A me il nome diceva qualcosa, Nucci. Mm. Vabbè, tu insomma, Nuzzi, la sosta. Nuzzi. No, Nuzzi, che c'è da poveraccio, non c'entra niente. Nuzzi, ha tante colpe nella vita. No, ma adesso tu pensavi a Nuzzi, invece è Nucci. No, Nucci. Invece allora, veniva a casa io, tua ovviamente, e qui nasce l'imbarazzo. Veniva a casa mia, qualche volta è venuto a casa mia, 2-3 volte. Se ti piace così. Ma che ti sto raccontando una lo cosa. Lo spiegherai ai giudici, è inutile al PM. Io non problema. Partecipavo a questi festini che facevano, un po' particolari, festini con delle donnine, eccetera, anche con degli uomini. E veniva ogni tanto questo Nucci, il quale era molto froscio. Beh, questo però non è un reato. Assolutamente no. Assolutamente, certo, poi andare con i quindicenni, andare con i minori, io non sapevo un cazzo, non ho mai saputo niente, anche perché non me lo ricordavo nemmeno, me l'ha ricordato questo mio amico con cui, a cui affittavo una casa. Comunque tanti non è un bel ambiente questo vostro di cose. Ma quale nostro? Che ambiente di non che? Lo so, di che cosa? Mi pare che venga fuori un quadro abbastanza chiaro. La cosa chiaro. Vergognosa è un'altra, è che la realtà è che tutta Roma, secondo me, almeno la Roma che frequentava questo PR, questo agente immobiliare. E che frequentavi tu? No, mai frequentata. È una Roma di porcherie, diciamo. No, questa Roma qui sapeva, secondo me, sapeva del fatto che questo Nucci andava con i minorenni. Cioè, secondo me lo sapevano, dai, su, ragazzi, si sapeva, è evidente. Poi, a parte quelli che sapevano, cioè dalle intercettazioni, non hanno denunciato, e spero che questi vengano presi e se li inchiappettino. Se li inchiappettino in senso lato, ovviamente, la giustizia se li inchiappetti. Cioè, chiunque sapeva che questo porco maiale che andava con i quindicenni, con i sedicenni, si faceva fare i pompini, i video, eccetera, si faceva, dava i soldi e poi addirittura ricattava questi ragazzini, chiunque sapeva è forse più colpevole di questo, che poveraccio è un malato, no? Deve andare in galera per 100 anni, però è malato. Io direi di fare una telefonatina al suo avvocato, che si chiama De Bonis, il signor De Bonis, che oggi ha detto delle cose un po'. Ha detto che è bipolare, che è stato stuprato da alcuni religiosi o presunti tali a scuola, forse dando una giustificazione a tutto questo, una giustificazione che non può esistere. Pronto? Avvocato De Bonis? Sì. Buonasera, qui Radio 24, salve. Senta, le chiedo subito una cosa. Ha parlato col suo assistito? Sì, oggi. Oggi? In che condizioni è? Abbastanza serene. Abbastanza serene, ma lui ha confessato le accuse che gli fanno o no? Ad oggi non c'è confessione, ha fatto la richiesta di giudizio abbreviato. Cosa significa? Che ci sarà uno sconto di pena? C'è uno sconto, il rito abbreviato prevede uno sconto secco di un terzo rispetto alla pena applicata in caso di condanna. In caso di condanna. Senta, quando lei ha detto che il suo assistito è bipolare, cosa significa? Soffre di un disturbo bipolare clinicamente accertato. È sottoposto a una cura farmacologica. Questo cosa c'entra con le accuse che gli vengono fatte, cioè le molestie, eccetera, eccetera? Sono l'indice di una personalità comunque alterata e non sempre lucida. E comunque e per questo lei merita, secondo lei per questo merita, diciamo, uno sconto, un attenuante? Non è una questione di meritare o non meritare, è una scelta processuale, una strategia difensiva e soprattutto un rito previsto dal codice. Ha subito violenze? Lui subì delle violenze, non incidono e non hanno valenza in questa nella fattispecie, ovviamente, cioè non è che nel caso in cui venisse condannato questo comporta una diminuzio, comporterebbe una diminuzio di una sua eventuale responsabilità. Però, ma che tipo di violenza ha subito, mi scusi? Subito delle violenze carnali. Delle violenze carnali da chi? Dal personale dell'orfanotrofio presso cui sta. Ma erano preti? Non dai preti, ma era comunque un istituto religioso. Cioè ha subito violenze carnali all'interno di un istituto religioso? All'interno di un istituto. Da religiosi, evidentemente. Presumo, non c'ero. Me l'ho appreso dalla relazione psichiatrica che provvederò a depositare. Ma è omosessuale, Nucci? Senza dubbio. E i ragazzi che lui ha frequentato e che secondo l'accusa avrebbe, diciamo, con cui avrebbe intrattenuto rapporti, video, eccetera, eccetera, che ragazzi, cioè, erano consapevoli di quello che facevano o no, secondo lei? Secondo me sì. Pienamente coscienti? pienamente coscienti. Ciò non, che vuol dire secondo lei? Cioè che non bisogna fare troppo i moralisti? Cioè a 15-16 anni si può essere tranquillamente, no? Cioè, nel... No, non è questione di fare moralisti o di tratteggiare o di dare un'immagine sbagliata dei ragazzi, perché quando anche qualora fosse riconosciuto colpevole dei fatti che gli sono addebitati, si tratta pur sempre di minori e quindi c'è comunque una però? Sudditanza, mi faccia finire, sì, una sudditanza sì. psicologica in ogni caso di un ragazzo eventualmente nei confronti di un, sì. Di un maggiorenne. Detto ciò, dalle carte in mio possesso e sì. comunque anche i ragazzi erano ben consapevoli di quello che facevano. Ciò non vuol dire che cioè erano ben consapevoli, mi dico una cosa, e non avevano particolari remore a fare le cose che hanno fatto, cioè non è che si vergognavano delle cose che facevano. Sapevano che sarebbero stati ricompensati. Sì. Secondo me un minore che si trova coinvolto in una storia del genere ha delle problematiche e non è solamente la vittima, cioè la vittima non è solo la vittima, non è solo la vittima, quando anche lo sia, quando anche lo è, perché lo è, non posso negare, è vittima, però a 15-16 anni, se uno si può essere anche adulti da questo punto di vista, cioè si è coscienti di quello che si fa, questo vuole dire. Secondo me sì, cioè secondo lei è pedofilia questa, sempre se fosse accertato, si tratta di pedofilia o no? Se venisse accertata, sì. C'è una frase di queste intercettazioni che sono state riportate in cui Nucci dice: sono andato a portare 50 euro a un fidanzatino mio che so 2 giorni che mi chiede 20, mi mettono in galera, guarda, non ti dico quanti anni ha che te pia un colpo. Adesso, oggettivamente, questa intercettazione sembra una persona pienamente consapevole di quello che fa, non mi sembra un personaggio troppo bipolare o comunque troppo traumatizzato, era consapevole di andare con minori. Senza dubbio, io l'intercettazione l'ho letta, mi sembra più un megalomane che si vuole vantare fondamentalmente. Però lei ha figli? Io certo che ho figli. Certo, mica detto. Giustamente. Quanti anni hanno? Sono nella fase dell'adolescenza 2 e un po' più piccolo. Dunque 15 anni, 16 anni avranno, 13 anni, 13, 14, 15 anni. Poco più piccoli delle vittime. Non le fa schifo tutto questo? Se dovessi valutare esclusivamente dal punto di vista morale, sì. senza dubbio, e fossi un esterno e non l'avvocato di sì. una persona accusata di questi fatti, darei un giudizio morale diverso, che è diverso da quello. Cioè, me lo dica, questa cosa qua da padre le fa schifo, da padre di coetanei delle persone coinvolte, più o meno. Cioè, le fa schifo o no questa roba? Io credo che il giudizio sia identico per tutti, no? Ma lei è l'avvocato di fiducia di Nucci? Sì. Cioè lo conosce Nucci? Lo conosco da tempo. E non sapeva di queste cose qua, nulla di nulla? Niente, no. Questo posso dire, posso essere limpido e sincero nella cosa. Cioè non sapeva che andava con i bambini, insomma, con ragazzini? Assolutamente. Sa, che perché poi, io credo che venisse accusato di andare con bambini, assolutamente. Sì, che venisse accusato, naturalmente. Senta, un'ultima cosa, lei è favorevole alla castrazione chimica? Sono favorevole a che? Le persone che hanno queste devianze, sì. queste devianze vengano curate. Anche farmacologicamente? Farmacologicamente per reprimere questo tipo di per sedarlo eventuali si fa. Ma questo credo che sia un sentire comune. Va bene, avvocato, lei è stato molto gentile, grazie. Salve a lei, grazie. Grazie, arrivederci. Scusate, io non c'ho un euro, cosa cazzo me ne frega della borsa? La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Sono qui a bordo piscina a Valencia. Sono andato a prendere un aperitivo. Volevano rifilarmi il cocktail vegano, 12 euro. Volevo mettergli le mani addosso. Ciao belli! Crux, se molli, vengo io là sotto a romperti il culo. Luciani, non ti preoccupare, ti difendo io, vengo con i tre Doberman da questi nazi vegani di merda che il primo alza dito le lancio contro, poi vediamo, gli animalisti se hanno il coraggio di difendersi da tre Doberman. Ciao amico mio. Ragionando per assurdo, se prendiamo un nazi vegano, gli diamo un fucile carico e lo mettiamo davanti a un leone affamato, secondo voi cosa succede? Parenzo, ma che cazzo dici? Cruciani va lì con un salame ed è un criminale, e invece quelli che stanno là fuori con i fumogeni non sono criminali. Ma che minchia dici? Hai seminato vento e mo raccogli tempesta! Cruciani, ho solo una cosa in mente. Tu al mio addio al nubilato. Siamo qui, andiamo. Francesco da Matera, vai Francesco, vai. Buonasera. Dimmi, Cruciani. Dimmi. Volevo capire due cose. Sì. Non mi interrompere che mi fai perdere il filo cortesemente. L'altra volta che andò la politica iniziato. Lì nei paesi musulmani, che si mise lo scialle in testa, vi eravate schierati, il gatto e la volpe là, vi siete schierati, no, quello era segno di rispetto, no, quell'altro doveva farlo. Mo che quello là ha detto non vi mettete le minigonne che fate arrapare i musulmani, non si è schierato nessuno. La prima cosa che volevo dire. Ma non si è schierato nessuno quando? Come? Perché? Ma dove? In Olanda, amico mio, è successo. Gli avete dato il coglione a quello dell'Olanda lì. Che beh, ma mi pare chiaro, se uno scrive, un sindaco scrive una mail ai propri dipendenti o qualche c'entra? Allora non c'è. Allora la tua libertà che oggi esprimi sempre, dove cazzo non è finita? Ma infatti scusa, questa cosa qui è contro la libertà. Ma a parte che ha ragione ad avvertire le persone, a dirglielo, poi fate. Ma non è che avverti, ma non ho capito perché per te girare con una migonna è un problema? No, per me no, anzi volevo lanciare un messaggio. Volevo lanciare scusami l'inceppo, Cruciani. Sì. Volevi lanciare un messaggio alle 4? Alle 4 mignotte di Porto Marghera. Ma che c'entra? Che? Chi sarebbero le mignotte, sì, di Porto Marghera? Perché il tuo programma fa parte così, va bene. Quelle 4 mignotte che mi hanno rotto i coglioni stanotte a bussarmi, mi spottevano uno dietro l'altro. Ma chi? Ma di cosa stai parlando? Di come parli tu sto parlando. Vabbè, stavo Francesco, dicendo, ciao. La cosa importante, Luca da Cuneo, vai, me ne frego, vai, Luca da Cuneo. Pronto, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Cruciani, dunque, io premetto che non ho nulla contro i vegani, però trovo assurdo quello che hanno fatto nei tuoi confronti e che tu vai giù col salame va benissimo. Io voglio dire una cosa, senza creare dei problemi a loro, io ho mangiato il gatto ed è buonissimo. Ma quando l'hai mangiato il gatto? Sarà già una quindicina d'anni fa. Mm. Che una quindicina di anni fa? Sì, una quindicina di anni fa. Mm. Ma dove l'ha mangiato sto gatto? A casa mia. Cioè, non ho capito. Fa schifo, ti sei preso un gatto e l'ha mangiato, fa schifo. No, semplicemente era un nostro gatto, noi abitiamo in campagna. Sì. È matto, dai, non c'è dubbio. Questo gatto è finito, si è messo a dormire sulla ruota del furgoncino di mio padre. E allora? Mio padre è partito e praticamente il gatto è rimasto decapitato. Vabbè, avete che schifo, ma sei vero, ma lei è una roba. Aspetta, ho capito, ma per come dire, per sfiga è morto un gatto. Dunque, di solito il gatto uno lo prende, lo porta, diciamo, lo seppellisce. E invece era un bel gatto, diciamo, grosso, di tenera età. E l'abbia mangiato, ma ti dico, io ho 47 anni, mia madre ne ha 76. Sì. Mia madre in gioventù mangiavano sempre i gatti loro. Dunque non ho in capito. In campagna era così, no? E non mi sento un criminale neanche se ho mangiato un gatto. Poi, un'altra piccola riflessione. Noi siamo in una zona pedemontana, no? E cinghiali e caprioli fanno disastri in orti e frutteti. Cosa bisogna fare secondo i vegani? Infatti i caprioli si mangiano. Ma non ho capito, Luca, qual è il problema? Oggettivamente, no, qual è il problema? Non c'è nessun problema. Non c'è nessun cioè, problema. Tu mi stai dicendo che hai assaggiato il gatto una volta. Com'era sto gatto? Era ottimo, come un coniglio, oserei dire persino più meno dolce, finale. No? Carne dolce, sì. Mi sembra. Era buono. Lo sai che ti dico una cosa, Parenzo? Che dovremmo forse tornare ad ammettere il gatto come perché in fin dei conti c'è un'ipocrisia di fondo. Cioè, i gatti sarebbero gatti d'allevamento quelli che si mangiano. Non capisco dov'è il problema, francamente. Ma per carità. Se noi ammettiamo il cavallo, cioè la carne di cavallo, non capisco perché non può essere ammessa la carne di gatto di allevamento. Non è che prendono il gatto da casa tua e lo portano al macello. Semplicemente è un'ipocrisia, una convenzione. Cioè, un'enorme ipocrisia. Alla tradizione di un paese, in Cina mangiano purtroppo i cani, ad esempio. No, ma no, ma questo lo sappiamo, però ho capito, ma è un'ipocrisia assoluta. Ogni cultura, ho capito, sì, ma l'ipocrisia di proteggere il gatto e di non proteggere il cavallo. Liquidi tutto come un'ipocrisia. Beh, una grandissima ipocrisia. Ma in realtà non è ipocrisia, appartiene al tuo costume, alla tradizione, a quel che senti. Cioè, è un po' più complesso di ipocrisia. Ho capito, ma se uno dice, scusa, perché il cavallo no e il gatto sì? Perché il gatto sta a casa... ma tanto sarebbero gatti d'allevamento, non è che sarebbero i gatti che noi, non è che uno c'è la lotta a rubare il gatto per mangiarselo, il gatto del vicino, è una grande ipocrisia, dai, ciao Luca, ciao. Allora, tra i tanti insulti che mi sono arrivati via Facebook, caro Parenzo, sul sito sai di... quante ne arrivano a me sugli immigrati, ma non c'è dubbio. C'è un tizio che ho individuato, che è un tizio che lavora in una banca, è il direttore di una filiale Veneto Banca, che si chiama Spadoni, signor Veneto Spadoni Banca, sì, il quale ha detto che io praticamente mi dovevano corcare di botte, mi dovevano pestare a sangue, esattamente così, pestare a sangue. Allora ho fatto un piccolo, no? Una piccola ricerca, tu, numero di telefono, tu. Senti qua. Banca? Sì, salve, cercavo il dottor Spadoni, grazie. Con chi parlo? Dottor Morelli dell'ACI, grazie. Un attimino, vediamo. Pronto? Sì, Federico Spadoni? Sì? Sì, buonasera, sono Luca Morelli, salve. Buonasera, dica. ACI, Associazione Carnivori Italiani, salve. Dica. Sì, volevamo aprire un conto. Chi è? Associazione Carnivori Italiani. Di dove? Di Pesaro. Dove avete sede? Lei è quello che mi vuole pestare a sangue, ha capito? Pestare a sangue. Va bene, allora... Pestare a sangue. Lei chi è? Bisogna pestarlo a sangue. Lei chi è? Ripeta quello che ha scritto. No, io non ha il coraggio di ripeterlo. Non ripeto niente. No, io sono, niente, sono Giuseppe Cruciani, non si preoccupi. Allora, Giuseppe Cruciani, benissimo. Allora, bisogna pestarlo a sangue, lo ripeta se ha il coraggio. Abbia il coraggio delle sue azioni. Abbia il coraggio delle sue azioni. Primo che deve avere il coraggio delle sue azioni. Abbia il coraggio delle sue azioni oppure la denuncio, perché ha scritto bisogna pestarlo a sangue. Infatti la denuncio. Bisogna pestarlo a sangue. Incitazione alla violenza. Bisogna pestarlo a sangue. Perché la sua non è un'incitazione alla violenza. E quale? Ammesso che lei sia Cruciani. Quale? Quale incitazione alla violenza? Non è un'incitazione. Quale? Lei prendere per il culo la gente che la pensa diversamente da lei non è un'incitazione alla violenza. Ah, adesso io inciterei alla violenza. Bene. Secondo me sì, carino. Meglio incito alla violenza. Perché bene. Non è prendere per il culo bene. La gente che scende con un salame in mano, non è prendere per il culo. Eccolo, non è un'incitazione qua alla violenza che quella. Eccolo qua. E lei ha scritto bisogna dunque pestarlo a sangue, giusto? Io non ho scritto niente. Lei non ha scritto perché lei è un codardo. Lei è un codardo e non ha il coraggio di ripetere le cose che scrive. Allora, perché il coraggio ha il coraggio di farlo solamente su Facebook. Guardi, ha capito? Lei ha sbagliato persona, solo ha capito, no, carissimo. Lei è Federico Spadoni, filiale Veneto Banca, la stessa persona che ha il profilo su Facebook e ha scritto bisogna pestarlo a sangue. Tanto questi violenti qui io vi vado a cercare uno per uno, compreso. Guardi, lei, ha capito? Ma lei fa benissimo. Compreso lei. Lei ha fatto incitazione alla violenza. Bisogna allora, pestarlo, sta scrivendo bisogna pestarlo a sangue. Il primo violento è lei. E perché? Ha capito? E perché? Il primo violento è lei. E perché? Mi spieghi? È un violento. Mi spieghi perché? Mi spieghi perché? Se lei cioè, le parole le danno fastidio? Allora, dietro la violenza. Ah, io incito la violenza nei confronti di chi? Scusi. Ma secondo me lei incita la violenza. Ma nei confronti lei di chi? È un grande provocatore e incita la ma violenza. Ma nei confronti di chi? Allora io dico, per quale motivo? Nei confronti di chi? Con chi? Ah, perché quella è violenza. Perché quella è violenza. Scendere con un salame è violenza? Certo che sì, c'è una provocazione. Ma lei vive in un altro mondo allora, cioè lei le leggi non le conosce. Ma io penso che lei benissimo vive in un altro mondo. Vive in un altro mondo. Lei ha scritto bisogna pestarlo a sangue. Quello che fa lei è un'incitazione alla violenza ancora maggiore di quello che può aver fatto chi scrive sul web, ha capito? Benissimo, bisogna pestarlo a sangue, bravo. Ma se lei, complimenti. Scusi, vuole avere la controprova di questo, complimenti. Lei denunci tutti quelli che complimenti hanno compreso... compreso chi sia che le ha scritto quella cosa lì, e poi dopo vedrà se è vero o non è vero che lei incita alla violenza o no. Spadoni, bisogna pestarlo a sangue? È un'altra cosa rispetto alle idee. Lo capisce o non lo capisce? Ma lei, le sue idee... Ma lo capisce o no che scrivere bisogna pestarlo a sangue è un'altra cosa? Ascolti, lei... Allora, si penta, no? Si penta, no? Si penta, eh? Si penta di quello che ha scritto. Ma io non mi pento affatto. Ah, non si pente affatto di aver scritto questo? Ma non mi pento perché, oltretutto, non so neanche con chi sto parlando. Sto parlando con Federico Spadoni. Io non so con chi sto parlando. Io sono, sono Giuseppe Cruciani. Il modo di agire, ah, capito? Io devo cambiare. Sì, lei deve cambiare perché lei è arrivata la polizia. È arrivata la polizia vegana. È arrivata la polizia vegana. Ma qual è la polizia? Lei non è arrivata la polizia animalista. Io sto parlando. Sì, allora, oh, lei ha già detto che non si pente di quello che ha scritto. Benissimo, no. Oh, ottimo così. Bisogna pestarlo. Bisogna pestarlo. Ammesso, non ha nemmeno il coraggio di quello che scrive. Lei scrive e poi non ha il coraggio. Ha capito? Lei scrive e poi non ha il coraggio. Ma si deve vergognare perché non ha il coraggio. Non ha il coraggio, si deve vergognare, non ha il coraggio di quello che scrive. Se le posso dire qualcosa, sì. Cambi il modo di affrontare gli argomenti. Sì, non si può. Terrò conto perché del suo terrò conto. In quel modo, aderire chi la pensa in modo diverso da lei, non può fare altro che un incitamento alla violenza. Bene, dunque, hanno fatto bene, scusi, hanno fatto bene. Hanno fatto bene a venire qua a picchiarmi. Hanno fatto bene, ma secondo me sì. Lei, bisognava pestarmi a sangue. Secondo me lei queste cose qui se le va a cercare, capito? Sì, bisognava pestarmi a sangue. Chi, bene. Chi deride in modo di vedere di altre persone, chi deride, alla fine, sì, chi è un incitamento alla violenza, certamente. Bene, scusi, lei non ha fatto violenza verbale in pubblico, gratuita, verso chi la pensa diversamente da lei? Io ho espresso le mie idee, le mie opinioni. Se a lei non piacciono, se ne faccio no, una ma ragione. Lei, le sue idee, scusi. Se ne faccia una ragione, non incito, non esistono. Non esistono. No, guardi, non esistono le brigate cruciali che assaltano, no, che assaltano gli tutto, animalisti, capito? È chiaro? Guardi, lei ha sbagliato tutto. Perché mi vuole pestare a sangue? Non sono le sue idee, è che se lei porta in televisione o in radio una capretta da ammazzarla e poi la deride di fronte ad altri che la pensano in maniera diversa, come quello derido la capretta. Allora lei uno può essere derido la religioso. Capretta. Viva tranquillo, viva tranquillo. Viva tranquillo anche lei. Viva tranquillo. No, beh, con voi non si vive troppo tranquilli. Manco il coraggio di quello che si scrive, caro Parenzo. Manco il coraggio di quello che si scrive, capito? Questa come è gente... curioso, perché è un direttore è... di banca. Direttore di banca, ma no, ma la banca dovrebbe farci un pensierino su questa roba qua. Uno che scrive su Facebook che bisogna pestare a sangue un conduttore radiofonico, o comunque una persona qualsiasi, lascia perdere un conduttore radiofonico, facciamo un pensierino pure, facciamoci un pensierino sopra. Direttore di una filiale di una banca. Poi non è che i bancari non è che siano per forza delle persone tranquille e calme, Però comunque... Poi dice che le banche vanno male, no? Te credo. Poi dice che le banche. Non esageriamo, dice non esageriamo. Non esageriamo. Enrico da Roma, vai Enrico. Pronto? Dimmi. Enrico, vai, forza, forza. Chiudere ma tutto. Ma come forza? Ma voglio sapere una cosa, no? Ma chi gli hai fatto tanto male a sti vegani per farli incazzare tanto? Ma che faccio? Esprimo le mie idee, siccome per alcuni esprimere le proprie idee significa. Ho sentito prima quel Simone de Milano, ha detto che stava con te per far togliere quelle che sanno da mettere la minigonna, no? Poi però a te ti proibisce da scendere col salame giù sotto strada. Sì, sì. Ma esatto. È un po' un controsenso, un po' da stronzi. Ma da stronzi non lo so, un controsenso sicuro. Poi? Poi io dico a Parenzo, no? Che fa tanto il buonista. Aiutiamo qua. È ma cosa buonista da un cazzo. No. Che hai detto, vale? Non ho capito. Ho detto buonista un cazzo. No, per buonista sempre. Vabbè, allora. Ho detto non c'è nessun buonismo. Nessun buonismo. No, quello che fai tu ogni volta. O lo fai ma io apposta. Non sono buono per niente. Non è nessun buonismo. È quello che si deve fare. Non c'è cosa, nessun buonismo. Ma io dopo che si allora. No, è tutto quanto, ma da far culo per non rubare tutto quanto. E poi mi trovo che a quelli che danno da mangiare e da bere, l'alloggio io mi vado a pagare, è muto, da mangiare, da bere, a Davide come in casa. Ah, perché qualcuno ha regalato case a questi qui, a questi profughi che arrivano dalla guerra, ma di che parla? Ma che ma sta tranquillo che gli diamo tutto, gli diamo pure il culo, ma che cazzo di roba è? Ma ragazzi, che gente siete? Ci sentiamo domani 18:30, amici miei, Il momento più brutto della giornata.